si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Auguri di Natale ai migranti che ci aprono al mondo. Scolpita in un tronco da rete un bel bambino all'altare di quella cappella che guarda la valle. Qualche colori e pennelli non di pitturata. Passa di là, Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando su dimmi per chi, per quell'uomo che suda nel campo. Qua, buonasera cari ascoltatori, buonasera da me Alessio Maurizi, noi siamo qua fino alle 21 per stare in vostra compagnia. 800 24 00 24, anche in questi giorni a cavallo tra le feste di Natale e la fine, l'ultimo dell'anno, l'anno nuovo, l'arrivo dell'anno nuovo. Noi siamo qua con Laura Faggin, Silvio Bocaletti, Miriam Lucchetti in redazione, me Alessio Maurizi, l'ho già detto, qua in studio al microfono per tenervi compagnia, Pietro La Corte in regia. E siamo nell'orario, come anche settimana scorsa, per alcuni giorni, insomma, nell'orario consueto della zanzara. Li salutiamo, i nostri Cruciani e Parenzo, che saranno in vacanza, beati loro chissà dove. Dopo questa settimana poi tutto ritornerà nei suoi orari consueti. Avete sentito Salvini che, insomma, presa ancora una volta con Madame Boldrini. Non so poi se questa è così tanto un'offesa, insomma, l'ha paragonata alla Madonnina dai riccioli d'oro di questa canzone. Sentiamo ancora? Prepara la fisa, perché la Madonnina dai riccioli d'oro lo facciamo arrivare alla Boldrini, così si incazza, perché se sente parlare della Madonnina dice che disturbiamo qualcuno di religione diversa, perché ormai siamo, la Boldrini è un problema per se stessa, poveretta. Il 2015 deve essere l'anno in cui ci impegniamo a mandare a casa questo governo di merda e a riprenderci la guida di questo paese, che merita di più, che merita sicuramente di più. Bonjour finesse, si potrebbe dire a proposito di Salvini, che vabbè, insomma, sono raduni politici, raduni nei quali ci si lascia anche andare a queste parole qua. Renzi è uno sfigato, sentiamo. Che Renzi sia uno sfigato è ormai evidente a tutti, che non riesca a mantenere neanche metà delle promesse che ha fatto è chiaro anche al suo papà. Grazie per l'accompagnamento musicale, noi non abbiamo Fedez ma abbiamo le fisarmoniche, io preferisco le fisarmoniche a Fedez perché mi mettono più allegria. 800 24 00 24, cari ascoltatori, avete sentito? Vabbè, insomma, Salvini che dà dello sfigato a Renzi è il minimo sindacale in questi giorni qua. D'altra parte però dice: noi non abbiamo Fedez, abbiamo la fisarmonica. E allora viene a dire chi è lo sfigato dei due, cioè, nel senso, no, a meno che questo non sia un messaggio politico chiaramente rivolto all'elettorato di over 65 anni che preferisce la fisarmonica a Fedez, altrimenti è, come dire, è un autogol, una gaffa da parte di Salvini, dare lo sfigato a Renzi e poi dire preferisco la fisarmonica a Fedez, che è primo in classifica da tutte le parti. 800 24 00 24, ma sentiamolo, lo sfigato, cioè il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che oggi in conferenza stampa di fine anno ha fatto tutto l'elenco dei successi, insomma dei risultati raggiunti per lui, dei successi delle cose fatte, come è normale che succeda in queste occasioni, e ha risposto così alla domanda sul Toto Quirinale. Siamo a poche ore dall'ultimo discorso di fine anno che farà Napolitano, poi ci saranno più in là probabilmente delle dimissioni e si aprirà tutta la partita. Sentiamo Renzi. C'è un giochino molto divertente che era Indovina chi. Non so chi di voi ci ha giocato, perché voi magari siete più giovani di me e avete i giochi, la PlayStation e dintorni. Era meraviglioso, perché c'è: ha il cappello? Porta i baffi? Ha un naso pronunciato? È uomo? Se volete giocare a Indovina chi, io credo che facciate bene, perché è un gioco molto divertente. Purtroppo io non partecipo, perché nel frattempo cerco di affrontare alcuni temi che possono essere meno interessanti, ma che sono temi particolarmente importanti a mio giudizio per il paese. Poi insomma, tra le varie cose ha detto: beh, insomma, se credete che io mi metta qua a rispondere alle domande sul Toto Quirinale, dopo che abbiamo fatto, iniziato la riforma della legge elettorale, iniziato la riforma del Senato, portato avanti il Jobs Act, il decreto fiscale, insomma tutto, ha ricordato tutto quello che è stato fatto, io al Toto Quirinale non rispondo, metto il pilota automatico e vedetevela voi. Poi si è paragonato ad Al Pacino, quello di ogni maledetta domenica. Perché? Sentiamo perché. Mi sento un po' come Al Pacino in ogni maledetta domenica. Chi di voi ha visto quell'immagine? Un coach che cerca di dire ai suoi che ce la possono fare. Quello che stiamo cercando di raccontarlo agli italiani. Ogni punto è importante, ogni centimetro è importante, però la squadra è in condizione di farcela. Questa squadra si combatte per un centimetro. È vero, è una guerra. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Sì. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro, è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. Buonasera Stefano Fassina. Buonasera. Onorevole del Partito Democratico, abbiamo introdotto l'intervista con questa canzone Amore Litigarello. Chi era Pietro La Corte, questo qua? Beh, è troppo antico per noi. Tony Renis, chi era? Uno di questi qua. L'ha riconosciuto Fassina? No, confesso che non l'ho riconosciuto. Siamo partiti, perché naturalmente non possiamo che non parlare anche di questo. Cioè, tra l'altro, appena approvati i decreti del Jobs Act, lei ha usato parole forti contro il Premier, contro Renzi, di nuovo, non è la prima volta. Ma adesso ci arriviamo al rapporto tra Fassina e Renzi e alle critiche al Jobs Act. Però c'è quest'altra questione che adesso appassiona tutti: pubblico o privato? Cioè, i dipendenti statali devono rientrare oppure no nelle nuove norme che comunque sono in corso di approvazione, sono già state approvate con questi decreti che riguardano i licenziamenti un pochino più facili. Lei che cosa ne pensa di questo? Ma innanzitutto sottolineo che nel pubblico impiego è già previsto licenziamento per motivi disciplinari. La norma può essere ovviamente perfezionata, ma c'è, quindi non sarebbe una novità. Poi credo che si possa ragionare di tutto nel momento in cui si fa una discussione seria, non si improvvisa. Ho trovato davvero preoccupante che su un tema che riguarda comunque 3 milioni e mezzo di persone si sia fatto un trattino nei giorni scorsi tra uno che dice che si fa, l'altro che dice che non c'era, quell'altro che dice che è stato stralciato. C'è stata un po' di confusione oggettivamente, mi pare che sia importante, è un tema importante, non era stato mai affrontato durante l'anno di discussione della delega lavoro. Si sarebbe potuto affrontare in modo serio. E dobbiamo decidere: nel pubblico impiego andiamo verso la strada della legislazione privata lo dobbiamo fare sempre, perché se invece si fa da una parte la rilegificazione del lavoro pubblico, come ha fatto questo governo con alcuni decreti nei mesi precedenti, poi si dice all'improvviso che invece non vale più la legislazione, la rilegificazione, ma si passa al privato, si crea una grandissima confusione. Cioè, scusi Fassina, quando dice la rilegificazione per quanto riguarda i dipendenti pubblici si riferisce alla riforma Madia che deve essere ancora... No, mi riferisco anche al decreto che ha appunto rilegificato interventi, funzioni che prima erano lasciate alla contrattazione tra l'ARAN e le parti e i sindacati che rappresentano i lavoratori pubblici. E comunque in generale io credo che la questione che non funziona in queste settimane è di scaricare i problemi della produttività dell'Italia, sia nel versante privato che nel versante pubblico, sulle spalle dei lavoratori, come se il problema della nostra produttività come paese dipendesse dai lavoratori fannulloni e non dalla carenza di investimenti, non dalla pressione fiscale, non dalla ingerenza della politica nella pubblica amministrazione per quanto riguarda il lavoro pubblico. È evidente che mi pare che si stia rappresentando una gerarchia di problemi che è molto diversa dalla realtà. Lei ha detto che con questa riforma Renzi segue i dettati della Troica e prosegue l'attività di Monti e Letta di svalutazione del lavoro. Parole tra l'altro, insomma, frasi forti, visto che insomma, continuate a stare nello stesso partito. Chi dei due è più fuori posto, tra lei e Renzi? Ma innanzitutto Letta non ho nominato, ho detto che l'intervento sul lavoro, la riforma del lavoro segue la ricetta della Troica, questo sì, ma non è un insulto, è un dato oggettivo. La ricetta della Troica è quella di appunto di svalutare il lavoro nell'impossibilità di svalutare la moneta, e l'intervento che si è fatto, che forse si ricorda, era stato presentato come un intervento per contrastare la precarietà, per estendere, non ha nulla di tutto questo. Nessuno dei contratti precari, della 40 e oltre contratti precari è stato toccato, sono rimasti tutti esattamente come erano prima. Gli ammortizzatori sociali coprono le stesse tipologie che coprono prima. I giovani o meno giovani, perché oramai non sono più tanto giovani, a partita IVA individuale hanno visto i contributi previdenziali aumentare dal 28 al 33%, quindi vengono trattati come lavoratori dipendenti quando si tratta dei contributi previdenziali, ma sono esclusi dagli ammortizzatori sociali. Quindi tutta la parte che doveva riguardare l'estensione delle tutele a chi non ne ha è rimasta. Quella manca, ma scusi, lei scommetterebbe sul fatto che questi decreti arriveranno oppure li dà già per persi a questo punto? Ma temo che appunto saranno molto diluiti. Ci scommette, ma se dovesse a questo punto, perché io credo che molti anche di quelli che ci ascoltano adesso in questo momento, a parte il fatto che siamo al 29 dicembre tra un panettone e l'attesa per un botto di fine d'anno, dove saranno consentiti perché in molte città non ci saranno per tutelare gli animali, ma a parte questo, come descriverebbe a un marziano, a un giapponese, questa riforma dell'articolo 18, questa riforma del Jobs Act per come è stata approvata fino adesso, proprio in termini semplicissimi? La definirei una riforma che dà grande arbitrio alle imprese per licenziare i lavoratori nell'obiettivo di ridurre ulteriormente la capacità contrattuale, ridurre le retribuzioni e fare competizione di costo. È la ricetta che appunto è stata raccomandata e introdotta in Spagna, in Portogallo, in Grecia, in Irlanda. Siccome dobbiamo recuperare un differenziale di competitività, come si recupera? Non attraverso gli investimenti innovativi verso appunto la riduzione della pressione fiscale, del costo dell'energia, si recupera la competitività attraverso la riduzione delle retribuzioni, in una spirale, perché poi questo è potere d'acquisto e domanda interna, cioè perché non funziona tutto questo meccanismo? Perché alla fine riducendo le retribuzioni si riduce la domanda interna, quindi le imprese poi non investono e non assumono perché non hanno sbocchi, ne beneficiano quella parte di imprese che esporta, sì, ma è una parte limitata, e ne beneficia sempre meno perché poi tutto il resto del mondo fa la stessa cosa che facciamo noi, cioè cerca di conquistare quote di mercati degli altri, in una spirale in cui appunto dopo 7 anni l'Europa, sono 7 anni in cui non siamo cresciuti in Europa, nell'Eurozona, siamo in uno scenario di deflazione. Quindi è una ricetta che non funziona, al di là dell'equità, è una ricetta che non funziona anche nel macroeconomico. Adesso faremo una piccola pausa per il traffico, le chiedo di rimanere ancora con noi, se ha ancora 2 minuti. Poi le voglio chiedere questo, perché questa, diciamo, è la sua fotografia della riforma, così come la spiegherebbe, appunto, ho detto, a un marziano, a uno che non ne sa nulla. Però a guardare alle reazioni, le imprese dovrebbero essere lì che si fregano le mani, e invece viene detto che è una riforma di poco conto, di poco significato da molte associazioni di imprenditori. Tra i sindacati la CISL non è pregiudizialmente contraria, e molti dicono è una riforma che non ha un così grosso impatto. Allora le chiedo di rispondere dopo il traffico, perché invece voi vi siete accalorati così tanto. Non è che su questa battaglia per la riforma del lavoro dell'articolo 18 state facendo una battaglia politica per acquisire un posizionamento e andare a una scissione nel Partito Democratico, andare a creare un qualche cosa, un'alleanza con SEL, un nuovo partito o appunto un futuro politico diverso? Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con me Alessio Maurizi, 800 24 00 24. Stiamo discutendo con Stefano Fassina, economista, onorevole del PD, sul Jobs Act, e a proposito di questa questione pubblico e privato, diciamo così, l'eventuale esclusione dei dipendenti pubblici dalla riforma del Jobs Act sarebbe un ennesimo favore, come qualcuno dice, ai dipendenti pubblici, oppure una giusta, come vogliamo definirla, diversificazione normativa. 800 24 00 24, voglio sentire anche cosa ne pensate voi, cari ascoltatori. A lei, Fassino, ho fatto però quest'altra domanda, di questa abbiamo già parlato, una domanda che può sembrare maliziosa, però uno dice: io ho intenzione di andare via dal PD, di fare un'altra cosa, di allearmi con Vendola, eccetera eccetera, faccio una battaglia sul lavoro che mi dà un posizionamento politico. È questo anche che sta un po' succedendo o no? No, innanzitutto perché nessuno di noi ha intenzione di andare via dal PD, abbiamo detto, ripetuto e confermiamo che il nostro obiettivo è correggere le cose che non vanno dentro al PD affinché il governo Renzi abbia risultati positivi. L'intervento sul lavoro è un intervento grave, non sono d'accordo con la minimizzazione, e lo vedremo nei prossimi mesi, perché diciamo, in un contesto già così difficile si rende ancora più debole una parte del mondo del lavoro, senza appunto estendere nessun tipo di miglioramento, di garanzia ai precari, a quanti oggi non ce l'hanno, e questo avrà delle conseguenze negative sulle condizioni del lavoro, che oltretutto non produrranno nessun beneficio a livello macroeconomico, anzi temo che, come è avvenuto negli altri paesi che stanno seguendo la stessa ricetta, si andrà indietro. Quindi è un punto rilevante che caratterizza, credo, una forza progressista, una forza di sinistra che di fatto sceglie di attuare l'agenda dei conservatori, non l'agenda, la nostra agenda, l'agenda che appunto parla degli investimenti. Ma questo è chiaro, questo è chiaro, però voi dite non abbiamo nessuna intenzione di andarcene dal PD, però continuate a sottolineare come l'agenda politica del PD e le riforme che sta facendo lo connoti in una direzione troppo conservatrice, troppo poco legata al mondo del lavoro. Invece, per esempio, le iniziative del partito di Vendola di lanciare lo human factor, cioè di rilanciare proprio una battaglia a partire dal fattore umano, centrando sul lavoro, è molto più vicina al vostro modo di sentire. Questo sì. Ma questo sì, dopodiché ritengo che il Partito Democratico abbia un valore aggiunto rispetto a ad altri partiti, ad altre forze politiche che rispetto, con le quali interloquisco e che mi spingono a confidare, a rimanere nel partito democratico, quindi interloquire con chi è su posizioni in sintonia con noi. Non a caso noi abbiamo fatto l'alleanza elettorale nel 2013 anche con Selle, non vuol dire su questi temi in questo momento siete più vicini a Selle che a Renzi, questo si può dire? Ma sì, si può dire, anche che su questi temi siamo più vicini a milioni di uomini e donne che si sono mobilitati in queste settimane, siamo più vicini credo a quei centinaia di migliaia di elettori che non sono andati a votare per il PD in Emilia Romagna pur avendolo votato il 25 aprile, se mi permette siamo più vicini a quella parte di penso alle riflessioni e alle sottolineature che fa Papa Francesco sulla dignità del lavoro, sulla cultura dello scarto, sulla globalizzazione dell'indifferenza. Credo che ci sia oggi in una parte almeno della Chiesa Cattolica una radicalità nella considerazione della persona e del lavoro, che se ce ne fosse un decimo tra di noi sarebbe soddisfatto. Potremmo raggiungere risultati straordinari. Migliori di quelli lei dice che avete raggiunto finora. Ma su questo tema in particolare del lavoro, Renzi, secondo lei, è andato addirittura oltre il governo Berlusconi? No, non è andato oltre il governo Berlusconi. Ha attuato appunto quella che è l'agenda dei conservatori da 30 anni a questa parte. Non a caso Sacconi, legittimamente, il presidente Sacconi, il presidente della Commissione Lavoro del Senato, Sacconi, che era ministro del lavoro del governo Berlusconi, è in grande sintonia con il provvedimento che è stato approvato. Ripeto, anche se anche lui è un po' deluso, perché si aspettava di più. Ognuno è deluso dal suo punto di vista, questo sicuramente l'abbiamo capito. Vabbè, oltre il governo Berlusconi, no, però diciamo un pareggio su questo tema almeno del lavoro. Perché i governi conservatori degli ultimi 30 anni c'è anche Berlusconi dentro, no? No, io mi riferivo a una linea, ora al di là dei dettagli, mi riferivo a una linea che viene giù dall'Europa, che è stata negli Stati Uniti, di precarizzazione del lavoro come via alla ripresa. Questo è un impianto, ora al di là dei singoli punti. Quindi non riguarda questo quel governo, è quell'impianto là. Berlusconi ci aveva provato, ma non c'era riuscito a riformare l'articolo 18, invece Renzi ci è riuscito. Sì, e credo che questo non sia un punto che fa onore a una forza politica di sinistra come il Partito Democratico. Va bene, grazie Stefano Fassina, grazie, buona serata e auguri. E auguri di buon anno naturalmente. A presto, arrivederci. 800 24 00 24. Marco ci chiama da Milano, buonasera. Buonasera, mi spiace che l'onorevole se ne sia andato. E il problema è che dice cose che probabilmente andavano bene 40 anni fa, quando io ero un bambino di 5 anni. E poi la domanda è, ma l'onorevole è mai entrato in un comune, ha camminato in un comune e vede che uno lavorano e 5 guardano? Se mai fatto questa domanda, caro onorevole? E poi l'onorevole dice, tagliamo le tasse, ma per tagliare le tasse l'unico sistema è tagliare il costo della macchina. E per tagliare il costo della macchina probabilmente bisogna lasciare a casa dal mezzo milione al milione di dipendenti pubblici. Addirittura, un milione di dipendenti pubblici, è la miseria. Probabilmente per non dire... sì, e le 8.000, che poi sono 36.000 società pubbliche e parapubbliche. Ha detto Renzi oggi, fateci lavorare, sono 8.000, diventeranno 1.000. Questa è una sparata abbastanza. Ma quanti anni? Io sono da bambino, sì. E lei non sarà molto più vecchio di me. No, siamo coetanei, non sono esatto, più vecchio di lei. Lei ha detto che ha 40 anni. Qualcuno di 45, più, ha detto 45. Esatto. E che tutte le volte non c'è più tempo. Sono 40 anni ci dicono non c'è più tempo, no? Il paese non ha più tempo di aspettare, e sono 40 anni che aspettiamo. E intanto ci aumentano le tasse, intanto ci tolgono diritti, ma non diritti, io sono una partita IVA, meno di diritti di me chi ce li ha, forse il povero disgraziato che... Quindi lei adesso, recuperando l'argomento iniziale, lei è a favore che le nuove norme, quelle approvate col Jobs Act, tutto uguale, vadano anche nel settore pubblico. Perché sennò non c'è responsabilizzazione del lavoratore. Va bene, grazie, buonasera. Se lei entra in un comune, sì. Entri in un comune, a Milano, dove qui probabilmente... No, ma questo l'ha già detto, poi sa, ognuno entra e vede quello che crede di vedere. Comunque, lei, il suo punto di vista su questo l'ha detto. Benissimo, Marco, grazie. Loris da Verona. Buonasera. Così poi chiudiamo questo blocco. Prego, Loris. Buonasera, niente, io volevo solamente dire un mio pensiero. Allora, nel 2012 con Monti, fate presto, c'era scritto, come diceva il respiratore, il radiospiratore lì, fate presto, cosa hanno fatto? Ci hanno fatto pagare con la riforma Fornero a noi poveri dipendenti un sacco di tutto il casino che avevano fatto negli anni precedenti, diciamo così. E adesso invece? E nel momento in cui dovevano iniziare a fare qualcosa di concreto sui ricchi, tipo sulla benzina, il petrolio, sulle lobby, le banche e quant'altro, cosa ha fatto? Non ha fatto più niente se Monti. E poi non meravigliamoci se Monti non ha preso i voti per fare la differenza che voleva fare. Va bene, Loris, però nel frattempo siamo arrivati, c'è un altro governo, c'è un altro presidente del Consiglio, c'è Renzi, lei è rimasto un po', ha tardato a commentare Monti. Va bene, ci sta anche questo. 800 24 00 24, ci risentiamo dopo il giornale radio, più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo numerosi, vi aspettiamo per commentare, siamo partiti questa sera dalla notizia, insomma, statali sì, statali no, è giusto che i dipendenti pubblici rientrino nelle nuove norme della riforma del mercato del lavoro, del Jobs Act, con i decreti attuativi appena varati, ma sarà il Parlamento a occuparsene, questo ormai lo abbiamo capito. Abbiamo sentito Stefano Fassina, economista critico all'interno del Partito Democratico, che ha sintetizzato sostanzialmente così la riforma. Ha detto ci sarà maggiore arbitrio da parte delle imprese per poter licenziare, e questa secondo lui non è una buona riforma, ma questa non è una novità. Sui dipendenti pubblici ha detto è giusto che abbiano una tutela a parte, una normativa specifica. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, se volete invece twittare con noi l'account del programma è chiocciola si può fare 24, il mio account è chiocciola Ale Maurizi. E noi ce l'abbiamo una buona notizia da mettere così diciamo alla vostra attenzione, perché si può fare questo fa normalmente quando va in onda anche durante il weekend su Radio 24, adesso siamo in questo orario serale a farvi compagnia durante le feste. La buona notizia ce l'abbiamo, vai. And now the good news. Allora, anche se ve la metto in forma interrogativa, stop ai botti di Capodanno in molte città italiane, Milano, Torino, Bari, Venezia, altre, perché? Per evitare che ogni anno muoiano 5.000 animali, perché questo è quello che succede. Io per esempio non lo sapevo, ma c'è questa sensibilità giusta nei confronti degli animali che va crescendo. Allora c'è questa conta degli animali morti alla fine del Capodanno, perché gli uccelli per esempio pare che hanno paura e quindi proprio muoiono di crepacuore, è assurdo dirlo ma è così. Invece altri animali domestici tipo cani e gatti impazziscono, si buttano per strada e vengono arrotati, investiti dalle automobili. Allora la cosa è stata presa sul serio via via sempre più da un numero crescente di città, di sindaci, di amministratori. Allora io ve lo dico, ve lo ricordo se non lo sapete, non si possono fare botti di fine anno a Milano, a Torino, a Venezia, a Bari, a Bergamo, a Modena, anche a Pistoia, poi chissà quante altre città di cui io non sono al corrente. 800 24 00 24, è giusto secondo voi fare tutto questo? Questo divieto diciamo di festeggiare coi botti è eccessivo invece secondo voi? 800 24 00 24, vi aspettiamo tra pochissimo. Intanto su Twitter Mistakeness scrive, sui nostri account: un dipendente pubblico licenziato è come Gesù Cristo, mi hanno detto che esiste ma io devo ancora vederlo. Ora non so, questa potrebbe essere una battutaccia, ma è questo è quello che ci ha scritto il nostro amico ascoltatore su Twitter. Invece gli ippopotami che state sentendo, quelli di Vecchioni, in questa canzone erano dei tipi umani, diciamo così, basta capire, ascoltare la canzone per capirlo. Noi invece adesso parliamo di ippopotami veri, quelli usciti dal circo Orfei di Macerata e subito dopo hanno fatto una brutta fine. Cioè, a volte anche le migliori intenzioni, liberare gli animali dal circo, porta ad esiti negativi o addirittura nefasti. Non so se avete letto questa notizia sui giornali oggi. Noi abbiamo convocato il responsabile del circo Miranda Orfei, Daviso Montemagno. Buongiorno, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Allora, intanto c'è stato un blitz di animalisti nel vostro circo, eravate a Macerata. Allora, io non posso dire se erano animalisti o meno. Sì. Sappiamo soltanto che sui mezzi del circo hanno scritto animali liberi, assassini, insomma le solite cose che di solito fanno gli animalisti. Ecco. Non lo posso dire perché non l'abbiamo visti. E però hanno liberato non solo l'ippopotamo che poi è stato investito e ucciso da un'automobile, appena diciamo recuperata la libertà, insomma, è brutto dirlo, ma è così. Ma anche altri animali, o abbiamo letto sì, male? Allora le spiego, praticamente durante lo spettacolo pioveva, sì. Gli animali erano all'interno dei loro box, del loro container, sì. E noi ci siamo assentati perché non possiamo stare lì ogni giorno presente perché pioveva, siamo entrati dentro all'interno del circo. In quel frangente lì sono stati liberati i cavalli, struzzi, lama e la zebra e anche l'ippopotamo. Però devo dire una cosa in più, l'ippopotamo, allora sì. Tutti i nostri animali quando sono stati liberati rimangono lì nell'ambito del circo, non si muovono assolutamente. Io ho buttato l'occhio verso il recinto dell'ippopotamo e l'ho visto chiuso, ho detto ma saranno scappati così per caso, insomma sarà stato un caso, nel momento abbiamo dato come, la colpa come nessuno. Un caso? No, le spiego, può capitare che un animale scappa ma rimane sempre dentro il circo, sempre. Però nell'ambito del circo invece sì, in questo caso perché abbiamo tre recinzioni da passare. E quindi insomma abbiamo visto i cavalli molto tranquilli, erano i che brucavano, abbiamo recuperato i cavalli, struzzi, lama e zebra tranquillamente. Quando siamo andati a vedere l'ippopotamo era aperto il lato esterno dalla parte di dietro, sì. Era aperto per bene, la recinzione dell'ippopotamo, la recinzione nostra esterna che chiude il circo. E una recinzione anche del comune fatta con questi, cioè avevano nastri. Aperto tutto insomma per far uscire hanno fatto una bella. Però dico un'altra cosa, cioè se anche l'ippopotamo sarebbe scappato da quella parte, l'ippopotamo sarebbe rimasto vicino al circo, non sì. Sarebbe allontanato perché in tutto intorno c'è dell'erba, quindi sarebbe rimasto a brucare lì. Invece è stato portato. Ma questi sedicenti animalisti, insomma, che hanno liberato l'ippopotamo senza capire nulla di quello che sta succedendo, perché poi lo hanno condotto alla morte in pratica, perché lo hanno fatto andare sulla strada, la prima macchina che è passata lo ha messo sotto. Lo hanno condotto alla morte e hanno anche rischiato di uccidere delle persone. Perché insomma, sì. Un ippopotamo pesa 1500 kg, la macchina che lo ha investito si è distrutta. Per fortuna all'interno c'erano due giovanotti, insomma non c'erano dei bambini. Magari sì, poteva andare peggio. Allora, diciamo subito una cosa, Montemagno, che sì. Il partito animalista europeo, non so che peso abbia nella gerarchia, nella galassia degli animalisti mondiali, ha preso le distanze da questo blitz di animalisti, che comunque hanno lasciato delle scritte, comunque è evidente. Che fossero loro, perché si tratta ovviamente di una grossissima stupidata fatta così. Voi però siete stati presi di mira più volte da, lei ha detto, da, sì, da, purtroppo da questi blitz. Io dico una cosa, perché, sono, perché ce l'hanno con voi però? Ma sarà perché abbiamo gli animali, soprattutto per quello io penso, però comunque non è questo il comportamento. Se volete che non abbiamo più gli animali all'interno del circo, fate le cose per bene, fatte le manifestazioni pacifiche davanti al circo, si vedrà in tribunale, si vedrà dentro i ministeri, ma non assolutamente liberare gli animali, a far ammazzare gli animali e rischiare di far ammazzare le persone. Però questa dei circhi è una vecchia questione che ogni tanto ritorna, perché sì. ci sono ovviamente quelli che sono molto contrari, che dicono che li trattate male, che stanno in spazi stretti, è vero? Stanno in piccole gabbie. Qualcuno dice addirittura che gli vengono date delle droghe per farli dormire, per essere innocui. Assolutamente. Non è vero? Non le date nulla agli animali? Ma figuriamoci, a parte che non si può comprare questo materiale, tranquillanti, dei sonniferi. Queste cose qui, sonniferi, non si può. Uno, secondo noi ogni piazza, quindi stiamo parlando più di 100 circhi, più di 100 visite a settimana da parte della forestale, da parte delle ASL e dei veterinari, che le facciamo ogni settimana, ogni qualvolta che noi ci spostiamo. E sono ogni volta che arrivate in una città arriva o l'ASL o la forestale a controllare come stanno gli animali. Certo, perché è di prassi. Quindi se e voi non avete mai ricevuto nessuna sanzione, nessuna multa, nessuna. No, a oggi no. Certo, c'è stato negli anni passati qualche collega che si è comportato male, come in tutte le categorie purtroppo. Ma per esempio, in che tipo di gabbia sta un animale, non so, un ippopotamo, no? Lì da voi normalmente. Che spazio ha in metri quadri, allora, tanto per capirsi? Per legge deve avere 150 metri quadri, come si può tenere un cavallo, diciamo. Beh, come un appartamento in città, bello sì. Grande. Noi ovviamente lo facciamo sempre di più dei 150 metri quadri, perché c'è una direttiva CITES, una normativa CITES, che non è neanche una legge, però noi ci asteniamo, ci riteniamo a questa normativa CITES, però lo facciamo sempre molto più grande. Quindi voi in vostro accampamento, quando vi sostate ai margini della città, a che dimensioni ha, quanto spazio occupate? Degli ettari? Ma servono almeno 10.000 metri, almeno un ettaro, per stare bene, però attenzione, bene gli animali ma molto stretti le persone, perché quando la piazza è piccola ovviamente noi facciamo star bene gli animali. Vi stringete voi per far spazio agli animali? Certo, è capitato tantissime volte di metterci noi stretti uno sopra l'altro in mezzo al fango, ma basta che gli animali stiano bene tranquilli. Ripeto, attenzione adesso, il fatto dell'ippopotamo che è morto non è un danno economico grande, ma è una cosa veramente a livello cioè, è morto come se è morto un parente a noi. Senta, un'altra cosa, questo immagino che chi ci vive a fianco con gli animali poi ovviamente si affeziona. Nascono, questo è normale, anche se voi li utilizzate con noi. Certo, anche se li utilizzate per i vostri, diciamo, scopi anche commerciali, certo, però poi stanno con voi. Certo. Però c'è un altro circo nel quale questo riporta, diciamo, intanto la notizia, diamo atto al sito cronachemaceratesi.it, sono loro che hanno tirato fuori questa notizia, altrimenti non avrebbe parlato nessuno. Però oggi il Corriere fa un articolo e parla dei cani Ciao Ciao, o come si pronuncia, un altro circo orfei nel quale dei cani dipinti in un certo modo venivano fatti passare per incroci di panda, che è un po' una follia, un po' una forzatura, ed era un altro circo. Questo è la prima volta che lo sento io, sinceramente, e comunque mi documenterò. Però non è una bellissima figura, insomma, no, diciamo. Non è assolutamente una bella cosa, ripeto, come in tutte le categorie c'è quelli corretti e qualche persona magari meno corretta. Perché circo orfei non è un'etichetta sotto la quale c'è uno standard, no, ci può essere di tutto. Circhi orfei, allora le spiego, i veri circhi orfei sono 5 in Italia, poi ce ne sono tanti che sono dei prestanome, magari si chiamano Circo Pinco Pallino presentato da Pallino Orfei, ecco come succede. E magari, insomma, questi non doc, non originali. Ma l'arte circense, no? Che è una cosa antica, che insomma, tutti quelli che hanno una certa età sono stati da bambini nei circhi. Io non so, adesso ho una bambina che ha 3 anni e mezzo, non mi è ancora capitato di portarcela, ma ha un futuro, secondo lei, funziona? Cioè come momento, tra l'altro, di incontro con gli animali, di vita reale in un'epoca dove tutto è digitale, guardi, no? Io le faccio un esempio, noi fino a 2 settimane fa abbiamo fatto il Circo degli Orrori, non so se ne hai mai sentito parlare. No. È uno spettacolo che non ci sono animali, è uno spettacolo circense, teatrale, cantanti, ballerini, e molto bello, ma bellissimo veramente. E di grande qualità. Quindi lei dice il futuro non è solo gli animali, ma è anche no, mi altre cose, perché, sì. No, perché sennò si può capire male. Sì. L'abbiamo fatto fino a 2 settimane fa. È uno spettacolo che nelle grandissime città ha avuto successo, ma però per solo un weekend massimo due. Adesso noi l'abbiamo fatto anche a Macerata, abbiamo finito Macerata con questo tipo di spettacolo che non aveva animali, e non è andata purtroppo perché non abbiamo avuto abbastanza successo, abbiamo fallito in poche parole con questo spettacolo. Sì. Abbiamo riaperto lo spettacolo del circo tradizionale, il circo classico con animali, clown, giocolieri, trapezisti. Abbiamo avuto un enorme successo, quindi è uno spettacolo che piace tantissimo. Purtroppo animalismo e tutte queste cose qui è un po' tutto, è una piccolissima parte dell'Italia che non vuole gli animali, però non vogliono neanche... No, come non vogliono gli animali? Non vogliono che usiate gli animali non li vogliono. Certo, non vogliono, veramente non vogliono gli animali da nessuna parte, perché non li vogliono nella macelleria, non li vogliono nell'ippodromo. Non li vogliono nel piatto, ma li vogliono come diciamo esseri viventi. Essere lenti va benissimo, però diciamo come qualsiasi categoria hanno, c'è sempre una minima parte in Italia che danno problemi, danno problemi alle macellerie, danno problemi alla linea dei treni, danno problemi. Ma lei, ma lei con alcune di queste associazioni di animali avete parlato? Riuscite a parlare con gli animalisti o assolutamente no? Non si riesce. Qualche anno fa abbiamo preso anche qualche accordo che avevamo deciso di togliere i primati sarebbero le scimmie, i scimpanzé. Non ci avrebbero dato più fastidio, l'accordo era questo. Sì. Invece non è stato assolutamente vero. Io adesso 800240024, cari ascoltatori, vorrei sentire anche cosa ne pensate voi di quello che, di cui abbiamo appena parlato, del caso dell'ippopotamo di Macerata. E se posso dire poi un'ultima cosa, gentilmente. Sì, certo. Posso? Ecco, allora io dico questo, ovviamente ognuno c'ha il suo parere, no? Sì. Sì, gli animali, no gli animali, però una cosa dico gentilmente, per favore, non so, queste persone che fanno questi atti come hanno fatto con i visoni a Ravenna qualche giorno fa, che hanno fatto solo dei disastri, non liberate gli animali, perché gli animali purtroppo si possono spaventare e fanno male anche alle persone, insomma. Sì, sì, vabbè, questo è chiaro, soprattutto non liberarli senza sapere cosa farci dopo, dove portarli, come è successo per esempio lì da voi. Senta, ma a proposito di questa questione dei botti di fine anno, è giusto secondo lei vietarli per non spaventare gli animali? Allora, noi ce l'abbiamo da 7 generazioni gli animali, e le dico una cosa, perché l'avevo sentito prima, noi al momento che sappiamo che fine anno ci sono i botti di fine anno, quindi noi i nostri animali li mettiamo all'interno delle loro strutture, sì. Rimaniamo vicini con loro, loro sanno che c'è una persona che li protegge e stanno tranquillissimi. Perché è vero che si spaventano, è vero che si spaventano. Sì, si spaventano. Difatti, al momento dei botti, noi stiamo insieme ai nostri animali. Quindi non lasciate i vostri cani, cari ascoltatori, teneteli al guinzaglio, non lasciateli andare, perché altrimenti con i botti può succedere di tutto. Hanno fiducia. Va bene, grazie. Devono stare con la persona che hanno fiducia. Niente. Buona serata. Salve, grazie. Buona serata. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, 800240024, cominciamo a sentire i vostri interventi. Abbiamo Caterina che chiama da Como, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Allora, io ho ascoltato quello che ha detto il signore prima. Sì. E vabbè, ci sarebbe tantissimo da dire. La prima cosa che volevo dire è che un animale in un circo comunque soffre, a prescindere da come viene trattato, anche se anche ammesso fosse vero che venissero trattati nel migliore dei modi, gli animali perché fanno una vita, prima di tutto non libera, quindi sono comunque detenuti, quindi a prescindere di quanto grande o piccola sia la gabbia, un ippopotamo che in natura, una giraffa che in natura vivrebbe nella savana, libera, nei fiumi, con spazi immensi. Beh sì, questo lo può immaginare chiunque, però è molto diverso da tenere un animale in un appartamento, un animale domestico, per esempio un cane, un gatto, come succede a tanti, secondo lei? Allora, sicuramente sì, prima di tutto perché questi animali sono animali che hanno delle necessità molto diverse, cioè hanno bisogno veramente di vivere liberi in spazi enormi. In secondo luogo vengono e comunque non si può paragonare, perché questi animali, quello che diceva il signore, che fanno una bella vita, vengono trattati bene, ma io invito chiunque ad andare su YouTube e a digitare, a informarsi su internet, a guardare i video girati anche in Italia di come questi animali in realtà vengono tenuti e come vengono addestrati anche, perché una vita passata, diceva prima, continuamente a da un accampamento all'altro, da un attendaggio all'altro, quindi in continuo movimento, vivere tutta la vita su dei camion, su dei dentro dei recinti, e poi durante l'addestramento fare degli spettacoli. Non ci vuole molto, anche un bambino capisce che in realtà questi animali, un animale avrebbe bisogno di altro. E comunque vorrei qualche, cioè se il signore è ancora, non so se è ancora disponibile, per esempio qualche informazione su come lui sostiene che vengono addestrati gli animali, se ha mai sentito parlare delle scosse elettriche, degli spuntoni di ferro, delle frutte, tutte cose che sembrano fantascienza da animalista, ma poi basta andare su YouTube, su qualsiasi digitare su internet, sì, e informarsi e si Senta, vede. Senta, ma questo va bene per quanto riguarda i circhi, alcune domande gliele ho fatte, non questa in particolare, altre. Caterina, invece, non so se nella sua città c'è un'ordinanza che vieta anche lì, poi bisogna vedere se verrà rispettata. Nella mia città non c'è nessuna ordinanza, però immagino lei sia favorevole su questo. Io sarei favorevolissima a un'ordinanza che vieta, come in altre città, l'attendaggio di circhi con animali, perché tutti. No, ma io parlavo dei botti di fine anno, che secondo alcune stime muoiono fino a 5.000 animali per questa. Sì, infatti io sono contrarissima ai botti di fine anno. Allora, per questo, l'unica cosa che vorrei dire. Ma qualunque tipo di botto, cioè, oppure c'è anche una questione di intensità? Se uno spara. Per quanto mi riguarda, è una questione di intensità, nel senso, ovvio che gli animali sono terrorizzati, la vita selvatica viene terrorizzata da uno spettacolo su cui si può anche fare a meno, quindi non è certo questa però la priorità di cui mi sento di parlare adesso. Va bene, però, va bene. Grazie Caterina, per essere intervenuta, per essere stata con noi. Giuseppe da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera, io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso dell'onorevole Faustina. Sì, prego. Bene, secondo me il PD non ha più una linea politica, parte della minoranza di questo partito insegue il sindacato, la Camusso, che guarda più indietro che in avanti. Ma non è che a viva voce, Giuseppe, perché non la sentiamo benissimo. Al viva voce, se ce l'ha lo tolga, altrimenti continui, prego. Va bene, allora aspetti che... C'aveva al viva voce, l'avevo beccato. Adesso meglio, sì, prego. Pronto? Prego. Pronto? Però, pronto? Giuseppe, sì. Toccherebbe a lei, sì. Ce la facciamo? Allora, via. Sì, guardi, io ritengo che la sinistra, il PD in particolare, sì, debba riflettere e definire una strategia politica verso il mondo del lavoro, e in questo mondo del lavoro ci sono anche le imprese. Guardare come fa l'onorevole Faustina alla linea del sindacato è solo una parte della società che oggi è minoritaria, che guarda più al passato e non al futuro. No, minoritaria non lo so, perché i lavoratori sono più degli imprenditori, però è vero quello che dice lei, che nel lavoro ci sono i sindacati e le imprese, quindi un partito che vuole essere laburista, stare nel lavoro, sicuramente deve tenere conto di tutte e due le cose. E invece secondo lei il PD non lo sta facendo, perché non lo sta facendo? Perché segue solo i sindacati? C'è una cultura. Ma chi Faustina, però Faustina, perché sì, scusi Giuseppe, Faustina in realtà, perché mi pare che Renzi invece in questo sia più equilibrato. Ha una linea, Renzi ha una linea che la porta avanti, sbagliato, giusta, io ritengo giusta, mentre Faustina, la minoranza, guardano più al passato. Va bene. Grazie Giuseppe, grazie, basta, perché lo sentiamo anche male, lo sentiamo maluccio. Francesco da Milano. Oh, buonasera. Prego. Premetto che io ne ho fin sopra i capelli di sentire Renzi, di sentire Grillo, di sentire Faustina, di sentire la Camusso, che mi sembra un consiglio di fabbrica del 75. Tutto questo premesso, quindi non c'è nulla di politico in quello che voglio dire, o comunque di parte. Però una cosa è certa, che Cameron, quando è arrivato a fare il suo mestiere a Londra, la prima cosa che ha fatto, ha mandato via 500.000 dipendenti pubblici, e l'economia inglese, che era rovinata, ha cominciato a respirare. Adesso, lei dice ha cominciato a marciare l'economia inglese perché sono stati mandati via questi dipendenti pubblici? Allora, se noi vogliamo ridurre il carico fiscale, dobbiamo ridurre le spese. Il conto economico ci fa in fretta a farlo. Sì. Allora, ma ridurre le spese, forse ridurre gli sprechi più che ridurre i dipendenti pubblici, perché se lei va a guardare le statistiche, poi il numero dei dipendenti pubblici in sé per sé in Italia non è diverso Poi bisogna vedere che statistiche uno guarda. Il problema è di che cosa fanno allora. Questo sicuramente sono sì. Gli sprechi. Sì. Una cosa sono gli sprechi. Se parliamo dei cerotti comprati a 3.000 euro, bravo, è un discorso bravo. Da galera. Non è un discorso politico, sì. È un discorso da galera. Va bene. Chiaramente questi 3 milioni o 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici sono 3 milioni e mezzo di voti, quindi sarà da ridere quando Madia arriverà in Parlamento e qualcuno dovrà votare queste sì. cose, ma questo è un altro argomento. Però non lo so, io mi ricordo un giorno sono andato in un comune, era sabato, ho chiesto un documento e questo tizio mi ha detto questo glielo do lunedì perché oggi sono qui a fare recuperi e quindi non lavoro. Allora in un mondo che funziona così, dove uno siccome sta facendo un recupero legge il giornale e non ha capito che quando recupera deve lavorare, oppure un'altra volta che ho parlato con uno e gli ho detto ma dove lavori? Dice lavoro al monopolio. Sì, dov'è il monopolio? Dove c'è il monopolio? È chiuso da 2 anni, quindi non c'è il monopolio, però mi pagano lo stipendio. Allora questa è la realtà. Va bene Francesco, i casi limite come questi, ci sono anche tanti altri casi normalissimi di gente che va ogni mattina a guadagnarsi la sua pagnotta anche negli uffici pubblici, nella sanità, nella scuola. Poi chiaramente ci sono anche cose che non vanno, che non funzionano, è giusto mettere in luce anche quelle. Fabrizio da Rimini, buonasera. Sì, salve, buonasera. Io invece volevo intervenire sul discorso dell'arte circense. Sì. Io sono per tutelare l'arte circense, però senza animali. Che poi è quello che diceva il responsabile del circo Orfei alla fine, se gli ho chiesto qual è il futuro dell'arte circense, lui ha detto il circo senza animali, praticamente mi ha risposto questo. Io ho un'amica che lavora per fortuna alle Cirque du Soleil, dall'altra parte del mondo, lei lavora a Las Vegas, sì. Però tutte le volte che la guardo, quando mi manda i suoi filmati, rimango scioccato, e anche quello è circo, anche quella è arte, è bellissimo da tutelare. Purtroppo però non sono favorevole al discorso degli animali. È una cosa che ormai io sono vegetariano, quindi per me è come sfondare una porta aperta. Però cioè, l'animale è nato, è cresciuto e per migliaia di anni si è evoluto per stare in un ambiente. Costringere un delfino come un orso, come un cavallo, un elefante o qualsiasi altro animale a piegarsi alle volontà dell'uomo solo ed esclusivamente per essere applaudito, per rifarci del lucro, io non sono assolutamente d'accordo. Se non lo trovo giusto, e soprattutto nel 2014, quando si parla di inquinamento, quando si parla di sostenibilità, di mondo verde e tutto il resto, non ci sta più. Magari forse una volta all'inizio del 1900 poteva starci, ma oggi come oggi è assurdo. Io ripeto, però sono per tutelare l'arte circense. Sì, un'arte circense è completamente diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto sin qua, insomma, praticamente senza animali. Ego compatibile. Va bene, grazie, buona serata. Aspettiamo ancora altri interventi di voi ascoltatori all'800 24 0024 sulla questione dei circhi, se è giusto portare avanti questa arte circense oppure no, e di come vengono trattati gli animali. Adesso però parliamo della candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024, perché ci è parso tra le righe di sentire una buona notizia. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Sei libero il pignone, lo sceglie la corona che attraverso una catena. Il presidente del CONI Malagò ha detto in una intervista a Repubblica qualche giorno fa che la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024 non soltanto sarà una candidatura diffusa, diciamo, sul territorio, come è già stato detto, sfruttando altre città, quindi una candidatura italiana, a seconda dello sport ci si sposterà in alcune città, ma sarà la prima candidatura ecosostenibile, ecocompatibile, o dite come volete. Musica per le mie personali orecchie, ma credo anche per quelle di tanti. Aree da recuperare e non cattedrali nel deserto da costruire che poi non servono a nulla. Piste ciclabili, materiali non inquinanti e quant'altro. Ce n'è da pedalare per tornare a Frank Energy, per arrivare a questa candidatura. Però insomma, intanto questa sembra la scelta fatta dal CONI e da Malagò, che dice: abbiamo già parlato con Legambiente. Io saluto Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente. Buonasera. Buonasera. Intanto le voglio chiedere, e le faccio anche gli auguri naturalmente, se è vero che Malagò vi ha contattato. Ma c'è stato, diciamo, un primo incontro per dirsi però che insomma ci saremo visti poi quando la candidatura, che al momento è proprio all'inizio del progetto, sarà una cosa più chiara. Intanto, come dire, la notizia è che l'intervista a Repubblica Malagò dice che l'Italia si candiderà con un progetto in discontinuità con il passato. Sì, appunto, è una cosa importantissima secondo me, perché io adesso faccio una cosa, mi fermo a livello dell'annuncio, perché qua stiamo parlando di annunci, però già un annuncio di questo tipo, cari amici ascoltatori, secondo me è da accogliere positivamente, perché è un annuncio giusto, corretto. Non ne possiamo più di cattedrali nel deserto, di alberghi come quello a Milano lungo il Lambro per Italia 90, che è stato abbattuto l'anno scorso, ci sono voluti quasi 30 anni, o di altre schifezze simili che non servono a un tubo. Recuperiamo la struttura edilizia che ci sono esistenti e spendiamo di meno se possibile per risparmiare spazio. Questa è una cosa fondamentale. Poi, se questa avverrà, se succederà veramente, chissà se Roma si candiderà veramente, eccetera, eccetera. Queste sono tutte cose di là da venire, però l'annuncio è corretto. A lei chiedo però, Zanchini, in cosa si dovrebbe contraddistinguere un evento come un'Olimpiade per essere, diciamo, davvero in regola per quanto riguarda i costi ambientali? Come dovrebbe essere fatto? Ma intanto, siccome si svolge a Roma, c'è una questione di legalità, dire che forse viene anche prima. Ah, sì, certo. Probabilmente nella foga me l'avevo dimenticato, ma c'è una realtà grande come una casa, e non bisogna dimenticarsi che a Roma si sono svolti i mondiali di nuoto nel 2009 e ancora oggi abbiamo delle cattedrali nel deserto. Cioè chi passa per Roma dall'autostrada Roma mai ultimate, vede una piscina, un impianto sportivo enorme, una vela di Calatrava mai terminata, per cui mancano centinaia di milioni di euro per terminarle, sono piscine abbandonate. Questo è proprio, si tratta di un impianto proprio non finito, questo, eh? Esatto, diversi impianti non finiti, non utilizzati oggi. Quindi il primo tema è la legalità, che poi significa avere anche degli appalti seri, dei progetti seri, quindi è una questione che in qualche modo non riguarda solo l'Olimpiade, ma riguarda come si costruisce in Italia. Poi ovviamente c'è una questione ambientale, per cui il tema fondamentale è quello di realizzare opere realmente utili e riqualificare gli impianti esistenti. Però scusi Zanchini, adesso poi la faccio proseguire naturalmente. Su questo tema della corruzione mi viene subito un primo collegamento. Costruire di meno e riutilizzare di più può essere già un tema per fermare anche i malintenzionati, perché forse su costruire si può lucrare di più, su recuperare di meno, non lo so, la butto lì. Sì, è così, si evita che ci sia una corsa per esempio alle aree dove edificare, mentre invece il tema è quello di trovare per esempio degli spazi da riqualificare, dove creare delle strutture. L'esempio tipico di un'Olimpiade come quella che ha in mente appunto in questo momento il CONI non è tanto gli impianti, perché Roma o l'Italia, perché è un progetto appunto non solo in via da Roma, è piena di impianti da riqualificare e riutilizzare, ma per esempio c'è l'esigenza di costruire per esempio degli spazi per gli atleti, dove dormiranno gli atleti. Allora per esempio lì c'è una questione di recupero di aree, o magari puoi fare di quelle attrezzature dell'edilizia residenziale per chi ne ha bisogno, cioè edilizia sociale o quartieri da riqualificare, che per esempio è nell'interesse di una città come Roma. Faccio un altro esempio di che cosa significa un'Olimpiade fatta bene. Investire, ci faccia sognare, che ci serve un po' anche. Che Roma finalmente sia una città in cui si può girare con una metropolitana o con dei tram, cosa che a Roma è quasi impossibile perché è del tutto inadeguata. Guarda, mi permette una battuta, ma quando Rutelli lanciò le Olimpiadi prima nel 2000, poi spostata al 2004, poi Alemanno parlò di Olimpiadi nel 2020, c'è sempre un'infrastruttura che continua a ritornare, che è questa metro C. Beh, da allora la metro C non si è ancora realizzata, non siamo neanche a metà. Beh, per esempio, se Roma si candidasse a realizzare una nuova Olimpiade, dovrebbe sicuramente portare gli atleti come gli spettatori con i mezzi pubblici, perché è una città in cui il traffico è infernale. Questo è un altro tema ambientale che però per esempio avrebbe grande consenso per i cittadini. Certo, e grande utilità, grande consenso e grande utilità vera, vera, non come appunto costruire cattedrali nel deserto, ripeto questa espressione perché non è un caso, c'è stata una recente polemica per quanto riguarda Torino con un articolo, credo fosse Repubblica o il Corriere, che aveva tirato in ballo Fassino, il quale però ha detto ma stiamo riutilizzando tutti gli impianti, in realtà si utilizzano magari 3-4 volte all'anno, per il resto sono inutilizzati. A questo punto volevo chiedere questo, perché invece, ma l'abbiamo già detto, perché si tende sempre a costruire ex novo anziché a recuperare? Cioè in Italia questa cosa di recuperare l'edilizia esistente, come dovrebbe essere anche per un evento sportivo, non passa, non si fa, eppure recuperare spazio dovrebbe essere una priorità. Assolutamente. Assolutamente. Beh, intanto in Italia sostanzialmente è più semplice e meno costoso prendere un'area agricola, renderla edificabile, costruirci qualcosa. Noi non abbiamo ancora una cultura e anche appunto una capacità da parte dell'amministrazione pubblica di gestire interventi di qualificazione come quelli che per esempio guardiamo all'estero. Faccio l'esempio delle Olimpiadi di Londra. Le Olimpiadi di Londra sono state realizzate in un'area sul fiume dove c'erano delle aree industriali abbandonate. Beh, oggi c'è un quartiere, delle attrezzature sportive straordinarie, un posto che si va a visitare. Lì c'è stata la capacità di gestirlo. L'augurio è che in Italia da oggi in avanti si ragioni solo così, cioè con un'amministrazione pubblica in grado di gestire progetti di riqualificazione che sono nell'interesse dei cittadini, magari meno di qualche appunto imprenditore che vuole guadagnare per quell'occasione e poi scappare. Appunto, prima lei faceva il caso di Olimpiadi di Torino, lì ci sono opere utili, sono stati interventi di qualificazione importanti, e poi c'è questa famosa pista di Bob abbandonata, sostanzialmente usata per quei giorni e poi mai più utilizzata. Potrebbe diventare insomma questo tipo di biglietto da visita, un'Olimpiade compatibile, sostenibile dal punto di vista ambientale, una carta in più da giocare, da spendere, come elemento diciamo di innovazione, novità rispetto al passato per l'Italia, per convincere anche eventuali comitati olimpici, secondo lei? Oggi si vince in competizioni come queste anche con un progetto ben fatto, in cui si comincia dal fatto che c'è consenso rispetto a un'Olimpiade. Tra l'altro le ultime edizioni delle Olimpiadi sono terminate con dei problemi di bilancio, anche la stessa Londra, ricordiamo tutti quanti Atene, per cui convincere di una candidatura che è fatta con il consenso dei cittadini perché ci sono opere utili, con interventi di qualificazione e anche di innovazione che possono permettere appunto a chi viene a per quei giorni le Olimpiadi, ma poi in futuro a tornare a Roma e trovarla ancora più bella, sicuramente per una città con la storia e il fascino di Roma, un ottimo biglietto da visita, e ovviamente rafforza la candidatura. Io non ho dubbi che questa componente appunto di innovazione e sostenibilità oggi sia fondamentale anche nell'idea del CONI, per le ragioni che dicevamo prima: la legalità, perché Roma deve uscire, poter rifarsi un'immagine nel mondo, e poi perché è vero che da una crisi economica come quella che stiamo vivendo si esce solo in modo diverso, e uno dei modi per uscirne in maniera più intelligente oggi proprio puntare sull'innovazione, la sostenibilità, le fonti rinnovabili, insomma tutte le cose di cui parliamo. Se ci fossero queste caratteristiche, diciamo, ci sarebbe anche il sostegno di associazioni come la vostra, o comunque dell'opinione pubblica, mi sembra di capire di sì, più vasta, superando, è la domanda che le faccio, l'obiezione che ormai serpeggia tra molti, tanto per citare un leader politico, Salvini sta facendo una campagna contro questi grandi eventi, perché Monti aveva detto rinunciamo, perché si è cominciato, no, a capire che questi grandi eventi portano sicuramente anche delle spese, e non è detto che poi portino, diciamo, gli attesi guadagni. Basta, lei ha citato la Grecia, 9 miliardi spesi, ma con tutti i problemi che aveva la Grecia e la corruzione tra l'altro che c'è pure in quel paese, la Grecia poi è finita nel sottoscala dell'Europa. Voi sostereste e sosterrete questa candidatura italiana, o temete che possa fare appunto alla fine l'Italia della Grecia a questo punto di vista? Ma appunto in questo caso, come dicevo all'inizio, conta veramente il progetto, e se le idee che Malagò ha raccontato a Repubblica e ci ha accennato a noi sono realmente, come dire, le idee che vuole portare avanti, in quel caso siamo interessati a ragionarne, a entrare nel merito, e se veramente si andrà in una direzione per cui le Olimpiadi di Roma sono un'occasione per riqualificare la città e renderla più moderna e anche più sostenibile, sicuramente c'è il nostro interesse e ci sarà anche il nostro consenso. Benissimo, grazie Edoardo Zanchini, grazie vicepresidente Lega Ambiente, e auguri anche naturalmente. Grazie per essere stato con noi. Grazie. 800 24 00 24, riprendiamo il filo con gli ascoltatori, e abbiamo, chi abbiamo che ci chiama? Nino da Messina. Nino? Sì, pronto, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, ascolti, io desideravo intervenire per quanto riguarda la questione della protezione dei petardi. Sì. I sindaci vietano, alcuni sindaci vietano. A Messina per esempio si possono fare i botti o no? A Messina purtroppo li fanno e già sono iniziati. E io sono proprietario di cagnolino e le dico che è terrorizzato, trovo difficoltà a farlo uscire 3 volte al giorno, perché ha bisogno anche lui di insomma, le capisce, tenere un cane in casa, ha bisogno anche lui di uscire, di farsi una passeggiatina, avanti, io con il classico sacchetto per fare i bisognini. Sì, qualunque tipo di botto spaventa il suo cagnolino? O c'è una differenza di intensità? No, l'ho già chiesto anche prima. No, i petardi, è terrorizzato, petardi. I petardi proprio, guardi, e poi non lo so, nella zona dove abito io, il 31 proprio se ne sentono parecchi. Ma quindi secondo lei sarebbe giusto vietarli anche a Messina, per esempio? Sì, ma secondo me, oltre che un'iniziativa dei sindaci di alcune città, dovrebbe fare un'iniziativa del genere il governo per la protezione. Perché non lo so, io il mio cane, io sono il proprietario, forse il termine è sbagliato dire proprietario del cane, perché il mio cagnolino è come un figlio per me. Io ho due figli, ma per me è il terzo figlio. E lo vedo terrorizzato, non riesco a farlo uscire. Va bene. Io la ringrazio. No, io ringrazio lei. Si figuri, siamo noi che vi chiamiamo per intervenire, Nino. Grazie, in bocca al lupo a lei, insomma, alla sua città, al suo cane, a tutti. Io non lo so su questa vicenda, su questa questione. Credo che non farebbe male neanche agli umani, diciamo, limitare la stupidità dei botti, ecco, perché poi di questo si tratta. Poi dipende, tutto relativo, se uno sta c'ha la casa in campagna, sta fuori, spara, non se ne accorge nessuno, ma in città se tu per caso hai l'avventura di trovarti la sera dell'ultimo anno che ti stai spostando, dopo 10 di sera, cioè devi avere paura. A me è successo personalmente, perché c'è qualche cretino che non ti vede neanche passare e ti tira in testa i botti, quindi figuriamoci se non sarei d'accordo per limitarli. Sul divieto totale forse è un eccesso, perché poi non viene rispettato da nessuno. Vediamo però se stavolta, poi ci ritroveremo il 2 gennaio, saremo in diretta e vedremo se ci sono state delle multe, delle sanzioni, delle cose, oppure se sono annunci dei sindaci che, per prendere così, diciamo, in simpatia anche gli elettori, diciamolo, amici degli animali. Il primo a capirlo è stato Berlusconi con la storia di Dudù. Sì, è stata tutta una campagna, diciamo, di fumo. Luca dalla provincia di Udine, buonasera. Anzi no, abbiamo la pausa perché dobbiamo farla. Sì, la facciamo e poi facciamo Luca. A dopo. Tante scemenze, è vero. Cioè, tante cose, tante proprio per diventare favole, un idiota, sì? Guarda YouTube, allora non capisce niente. Invece lei cosa vuole? Voglio dire che, per esempio, l'altra sera avevo davanti a me uno spettacolo in TV di un circo, sì. Era un numero con dei cani, ma era evidente che i cani erano contenti. Cioè, quando un cane ti ubbidisce, vuol dire che il cane ti vuole bene. Beh, il cane addestrato non è non necessariamente un cane infelice, sono d'accordo con lei su questo. Sì, no, sì. Il cane addestrato, se sì. Tu non gli vuoi bene il cane, tu non addestri il cane. Certo. Se parlo per esperienza, non per... Poi sì, mi preoccuperei piuttosto per gli operatori del circo che vivono in condizioni ristrette. Vabbè, questo è quello che ha detto Montemagno, il responsabile del Circo Orfei di Macerata, però non so se c'è da prenderlo, come dire, va preso un po' con le pinze, ha detto: se noi ci stringiamo per fare spazio agli animali, non lo so. Cioè, il principio secondo cui l'animale serve l'uomo e allora è sfruttato non va bene. Cosa vogliamo dire con questo? Se lei va in un gregge e vede un pastore che fischia e tutto il gregge si rivolge, guarda negli occhi il pastore, l'ha mai provato? Sì. Al minimo cenno segue il pastore. Cosa? Quindi? E quindi è uno spettacolo questo qui. Ok, lei dice questo è uno spettacolo, perché gli animali che si rivolgono all'uomo e lo vedono come una guida, lo seguono, e questo secondo lei è uno spettacolo. Ottimo, Luca, titoli della 7. Sono 8 al momento le vittime accertate del disastro del traghetto Norman Atlantic, ma la conta dei morti potrebbe salire. Sono 427 le persone messe in salvo, i ministri Pinotti e Lupi confermano che a questo punto mancano notizie di 38 persone i cui nomi compaiono nella lista di imbarco. Alle 14.50 il comandante Giacomazzi è stato l'ultimo a lasciare la nave, si è conclusa così l'operazione di soccorso avvenuta in condizioni critiche, drammatici, racconti dei sopravvissuti che parlano di uomini che picchiavano donne per salire sugli elicotteri. Sono sono stato io a togliere la norma sugli statali dal Jobs Act, lo ha detto Matteo Renzi alla conferenza stampa di fine anno in cui annuncia la roadmap per un 2015 che sarà un anno decisivo e a tutto ritmo, altrimenti l'Italia, dice, sarà spacciata. E sull'elezione del successore di Napolitano al Quirinale è tranquillo, abbiamo i numeri. Dopo la terza e ultima fumata nera per l'elezione del Presidente della Repubblica, la Grecia andrà al voto anticipato il 25 gennaio. La prospettiva della vittoria di Tsipras ostile ai piani europei di austerità fa tremare i mercati. Atene all'inizio crolla e poi recupera un po', Milano perde l'1,15%. Continuano senza esito le ricerche dell'aereo malese scomparso domenica scorsa con 162 persone a bordo. Secondo le autorità di ricerca e soccorso di Giacarta potrebbe essere in fondo al mare. Poco prima di scomparire dai radar il pilota aveva chiesto di salire di quota per evitare una tempesta. Dopo il disgelo con Cuba, Obama valuta un'altra svolta storica, la riapertura dei rapporti diplomatici con l'Iran. Mai dire mai, risponde il presidente a chi gli chiede se è possibile riaprire l'ambasciata a Teheran. La condizione, tuttavia, è la rinuncia definitiva iraniana alle armi nucleari. Ecco qua i titoli della 7 e riprendiamo con gli ascoltatori. Andiamo dove andiamo? Fabrizio che ci chiama da Vicenza, buonasera. Buonasera a voi. Volevo fare un piccolo intervento a proposito della proposta della Olimpiade, sì, distribuita sul territorio, sì, con l'opportunità di spendere poco e fare dei recuperi, sì, recuperi di vari impianti, varie località, varie città. Ricordo che non tanto tempo fa un tentativo di recupero della Maddalena per ospitare il G8 sono stati spesi 500 milioni di euro. Beh, però mi scusi, quel recupero in realtà è stato più che altro una edificazione di un'altra cattedrale nel deserto e non hanno recuperato un tubo. Appunto, volevo dire proprio questo. E una volta fatto quel recupero si sono spostati tutti all'Aquila spendendo altri soldi per ospitare il G8, per cui di queste cose qua non so quanto ne abbiamo ancora bisogno in Italia. No, però guardi, è proprio questo il punto. Allora, per quanto riguarda la Maddalena, adesso ci sono anche delle inchieste, se ne è occupato Report, se non ricordo male. Di fatto poi è finito come ha detto lei, cioè Berlusconi decide di fare il G8 all'Aquila e per altre ragioni, per il terremoto, eccetera, eccetera. Poi quella è rimasta un'area, diciamo, inutilizzata, vuoi perché le bonifiche non sono state fatte correttamente, vuoi perché passata quell'occasione non se ne sono create delle altre, però quello non è un caso di recupero vero e proprio, quello è un caso dove non c'era un progetto di recupero, c'era semplicemente un progetto di, non lo so come definire. Vabbè, comunque di favori contro favori a favore. Ma questo è un altro livello, quello che dice lei di favori. Io non lo so se ci sono stati dei favori, c'è stato un progetto, diciamo, di strutturale, di tipo edilizio, che era quello di farci un albergo turistico dopo il G8. Il G8 non c'è stato fatto, la struttura forse non è stata mai nemmeno del tutto ultimata e tutto è sfumato. E lei ha ragione a metterlo sul piatto, perché non è un bel precedente, assolutamente. No, non è un bel precedente e proprio perché non è stato un bel precedente, facciamo, io ritengo di interpretare anche il pensiero, sì, di tanti altri, facciamo anche fatica a pensare a che le cose siano cambiate. A crederci. Cioè lei dice, c'è un annuncio di Malagò che dice facciamo le Olimpiadi fatte in casa, pulite del recupero, del riuso, però visto come è andato in passato non c'è molta fiducia su questa possibilità. Assolutamente, c'è tanta fiducia, anzi direi che dire non c'è tanta è un eufemismo e non ce n'è per niente. Però io preferisco uno che mi parte con un annuncio così piuttosto che con un annuncio invece di un grande evento tradizionale che punta già sul costruire ex novo, perché nel secondo caso, come dire, aumentano le possibilità che si facciano dei disastri. Nel caso del recupero si possono fare degli errori come è successo alla Maddalena, però diciamo partendo già da altri errori, non so come dire, si parte già da spazi, non so, diciamo, se la sfumatura è sufficiente. Le buone intenzioni ci sono, poi bisogna vedere i risultati finali, e siccome i risultati finali li abbiamo visti, sì, fin troppi fino adesso, di risultati comunque storti rispetto a quelli che erano gli obiettivi principali iniziali, come facciamo a crederci? Primo. Secondo, per come vediamo come vengono spesi i denari pubblici, Ma perché dovremmo crederci? Fabrizio, io mi accodo a lei per quanto riguarda un minimo di scetticismo, non mi allineo del tutto se questo porta, diciamo, a una sfiducia totale sulla possibilità che si realizzi questo, in quel modo, questo evento. Mettiamolo così, è l'unico modo in cui quell'evento può essere proposto, cioè le Olimpiadi, la candidatura di Roma può essere proposta soltanto in questo modo, cioè recuperando spazi, facendo cose ecocompatibili e non facendo dei mostri inutili. Poi chi vivrà vedrà, ecco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Il rogo del traghetto, 8 i morti, 427 in salvo e giallo su 38 dispersi. Governo, verificare liste passeggeri. Caos e tensioni a bordo durante l'emergenza. Nessuno ci ha aiutato. Indagati, il comandante e l'armatore. Così li abbiamo salvati, parlano i piloti degli elicotteri impegnati nei soccorsi al TG1, la moglie di una vittima greca. Renzi, parola del 2015 è ritmo, norme sugli statali nella riforma Madia, ci sono i numeri per eleggere il capo dello Stato. Fumata nera per il presidente, la Grecia torna alle urne a gennaio, crolla la borsa di Atene, soffre Piazza Affari. Milano, giovane aggredito con l'acido, arrestati un broker e una studentessa, era il mio ex e mi dava fastidio. Roma, la criminalità organizzata e il potere corrotto nel nuovo film di Stefano Sollima, Suburra, dove riecheggia lo scandalo di Mafia Capitale. Tra gli interpreti, Pierfrancesco Favino, Elio Germano e Claudio Amendola. Sarà che attraverso il lavoro per ognuno di noi passa l'emancipazione, no? Di ognuno di noi, anche se adesso di lavoro ce n'è poco purtroppo. Sarà perché ci sono pochi fondi per i servizi psichiatrici, cioè per i servizi pubblici, per le persone che hanno, soffrono di un disagio mentale. Fatto sta che, facendo anche di necessità virtù, ci sono spazi nei quali il disagio mentale viene affrontato proprio così, come mettiamoli a lavorare e vediamo quello che succede. Io ho sintetizzato un po', brutalizzato un po', ma questo è quello che succede, per esempio, nell'associazione L'Alba di Pisa, che di progetto in progetto adesso ha aperto un'altra attività, un ristorante, il ristorante del cuore. Io saluto Diana Gallo, che è presidente di questa associazione. Buonasera e ben ritrovata. Buonasera, ciao, salve a tutti. Ciao Diana, auguri anche. Ci risentiamo, ci siamo sentiti in altre occasioni per parlare anche delle vostre attività, delle vostre iniziative. Questo è il secondo ristorante che aprite, o sbaglio? Sì, diciamo il secondo, poi abbiamo anche il ristorante lì allo stabilimento Balneare, però certo. Questa del ristorante del cuore è proprio lo start-up anche del catering, di un social catering che vedrà, speriamo, nuove assunzioni presto, quando insomma siamo riusciti a rotare un pochino questa fase iniziale di nuova gestione, perché c'è il circolo che ormai è rodato dal 2007, sì. E ci lavorano appunto ex utenti della salute mentale formati come chef, come camerieri e facilitatori sociali, che sono ex utenti che diventano operatori della relazione d'aiuto, e una parte di autoimprenditoria, una parte convenzionata con l'ente pubblico. E il ristorante del cuore è un progetto che va dal 2011 addirittura, abbiamo preso con un mutuo con Banca Etica dei locali, li abbiamo intestati a noi, li stiamo pagando ovviamente, quindi è diventata proprio proprietà dell'associazione. Quindi nessuno vi ha regalato niente, perché io immagino già gli ascoltatori malpensanti che dicono sì vabbè, è facile farlo con i soldi pubblici, no, qui non c'è niente di pubblico, mi pare di capire. Avete fatto tutto da voi? No, nel mare si era fatto tutto da noi, però era un bando pubblico, certo. Un bando pubblico. Qui c'è un finanziamento pubblico anche importante della regione, sì, Toscana e della fondazione, che ci hanno dato i soldi per rimettere a posto questo locale fatiscente. Che però avete comprato voi col mutuo. Che è comprato noi col mutuo e che ce lo paghiamo poi con i soldi del lavoro, ovviamente. Diciamo per i pisani o per chi è intenzionato, diamo anche l'indirizzo. Dove si trova, sì, questo ristorante del cuore? Non è... Sembra, no, di non aver fatto fantasia, anche se ce l'abbiamo tanto, perché è in Via del Cuore, proprio per quello l'abbiamo chiamato Ristorante del Cuore. O siete andati sul sicuro, sul sicuro. Per è non... proprio nel cuore del centro storico, in Via del Cuore numero uno, una bellissima via vicino al Tribunale, vicino al Teatro Verdi, in centro, e abbiamo trovato strada facendo dei silos, è un ristorante dove praticamente sotto c'è un sito archeologico e ci sono dei silos che erano dei contenitori che nel 1200-1400 raccoglievano il grano, perché era una un luogo, un sito ebraico quel quartiere lì, e quindi il grano è comunque simbolo di prosperità, di abbondanza, di, insomma, speriamo che dia i frutti sperati, perché siamo tutti in attesa di creare nuove posti che funzionino sia come posti di lavoro sia come socialità, certo. E noi da tanti anni lavoriamo in questa dimensione, perché è un modo diverso di fare salute mentale. Purtroppo in Italia ci sono ancora un po' dei servizi che lavorano in maniera troppo dicotomica, troppo sanitarizzante, e noi invece lavoriamo sul progetto di vita, sul progetto individualizzato. La persona è rimessa nel territorio, rimessa nel suo contesto di vita, cerchiamo di rafforzare le parti sane, le parti vitali, l'empowerment, di far tornare, cioè, io un po' sintetizzato, brutalizzando, dicendo mettiamone a lavorare, però lo stai spiegando molto bene. L'idea è quella di non considerare le persone che soffrono di un disagio mentale in quel momento lì o da molti anni come dei vuoti a perdere, che ci si deve investire per cercare di curarli, ma da cui non si può trarre. Invece voi cercate di trarre energie, risorse da mettere in circolo, oltre che dare anche una vena imprenditoriale di autosostentamento economico anche a queste attività, ma anche proprio per come leva curativa. È un modello che sembra di successo, stando a quello che riuscite a fare voi a Pisa. Quante persone sono, diciamo, toccate direttamente o indirettamente da momento nella propria vita o da vere e proprie patologie in Italia? Perché questo sembra un po' anche una cosa di cui non si parla più, non si parla molto, se ne parla forse troppo poco. Ne parla poco e male, sì, diciamo, il fenomeno è molto complesso, quindi i dati sono anche al solito altalenanti. Comunque ci sono dei dati Istat del 99, c'era un 3,8% della popolazione italiana, nel 2010 si arriva a un 4,3%, nel 2013 c'è una ricerca che ha fatto la SOPSI, addirittura 17 milioni di italiani, quindi torna in capo a un anno il 20-25% della popolazione con più di 18 anni ha almeno un disturbo, quindi è un dato abbastanza significativo e importante, che vale la pena starci attenti e mettere quelle risorse, perché noi siamo un paese con poche risorse, cioè rispetto alla media europea abbiamo un 5% di risorse che vengono di contro la media europea del 7-5-8%, quindi ci sono meno assistenti sociali, meno infermieri, meno psichiatri, eccetera eccetera. E tanto per dirne una, Diana, questa legge di stabilità, non so se avete avuto modo di osservare e di verificare, fa qualcosa di positivo o di negativo? Perché siccome ci sono tanti tagli, poi abbiamo sentito ogni tanto si tagliano anche le cose sbagliate. Senti, per quello che si sente dire, per ora dice che la spesa sanitaria e quindi i servizi non verranno toccati e quindi i tagli verranno fatti su altri fronti. Meno male, meno male. Quando la prendiamo come una buona notizia, siamo sotto media di quello che bisognerebbe investire, non si taglia, quindi diciamo di per sé è una notizia neutra, positiva, perché non si taglia, però bisognerebbe addirittura investire di più. Bisognerebbe anche investire meglio i soldi che ci sono, perché purtroppo ancora ci sono tanti soldi investiti su strutture riabilitative che di riabilitativo non hanno granché. Come dicevamo prima. O comunque queste residenzialità da cui poi non ci sono percorsi di uscita. Noi abbiamo anche 12 appartamenti sul territorio, sempre in collaborazione con i servizi, è importantissimo collaborare col servizio pubblico, però vanno fatti dei progetti che portano la persona veramente a uscire dall'etichetta del malato, se no si cronicizza la malattia, perché a seconda dell'intervento che facciamo si può curare o si può cronicizzare. E tanti servizi purtroppo, per mentalità retrograda, per difficoltà, perché l'Italia è un paese ingessato e quindi non riesce a trasformare le cose che ormai ha creato, e questa è un paese dove ci vuole la flessibilità, ma i servizi sono ancora rigidi, è la nostra schizofrenia purtroppo. Collettiva. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, ancora una domanda per Diana Gallo, se vuole restare con noi: se avete delle storie da raccontarci che riguardano questo mondo, questo ambito, chiamateci e raccontatecele adesso. Traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi, cari ascoltatori, anche su questo. Io l'ultima cosa che voglio chiedere a Diana Gallo, presidente dell'associazione L'Alba di Pisa, se è vero che durante le feste, durante questi giorni di vacanza, c'è un aumento della sensibilità in negativo anche, no? Magari si rimane senza i punti di riferimento classici della nostra vita e si soffre di più anche di questo tipo di disagio. È vero o è un luogo comune, Diana? No, non è un luogo comune, è vero, perché tutte le persone si ritirano in famiglia, nel proprio privato, nelle proprie certezze, la persona che soffre, soprattutto quella in carico ai servizi, è molto sola e quindi si trova, quando i servizi chiudono, a sentirsi molto sola. Per questo noi il Natale stiamo sempre aperti, ma è tradizione, anch'io il Natale lo passo al circolo insieme ai nostri soci utenti, che per loro noi siamo un pezzo di vita, un pezzo di famiglia, e quindi non li abbandoniamo nel giorno di Natale. E se posso raggiungere una cosa, rettificare quello che si è detto, sì, prima, quando hai fatto la battuta facile con i finanziamenti pubblici, ti dico no, purtroppo non è facile con i finanziamenti pubblici, perché le organizzazioni devono anticipare tutti i fondi che arrivano sempre dopo, quindi noi siamo in ritardo di un anno sull'apertura del Ristorante del Cuore, perché abbiamo dovuto anticipare, quindi a livello gestionale è pesante. Questo è un altro problema, che invece bisognerebbe almeno in start-up dare delle cifre per permettere all'organizzazione di partire con qualcosa di solido. In realtà devi proprio anticipare tutte le... Questo è un altro problema grosso italiano, ora ti dico anche le critiche. Vai. Però, cioè, lo so, sfondi una serie di porte aperte che naturalmente ci sono. Però il cuore va avanti, quindi sono del cuore, la passione, il cuore, la competenza fa sì che si superino degli ostacoli insormontabili e si spera di continuare a essere da modello con la nostra voglia e con il nostro, insomma, passione di sempre, perché siamo nati piccolissimi, siamo cresciuti tanto, ora cerchiamo di stabilizzarci, di crescere ancora e di essere un faro per chi ancora invece è piccolino e vuol crescere. Grazie, auguri a te, Diana Gallo, e a tutta l'associazione L'Alba e a tutte le persone a cui date, io dico così, una mano, ma il concetto è molto più ampio. Ancora in bocca al lupo, grazie. Un abbraccio, saluti a tutti, ciao. Insomma, vi abbiamo raccontato quest'estate dello stabilimento balneare Big Fish, gestito da questa associazione. Adesso c'è stato un circo, adesso c'è un ristorante, il Ristorante del Cuore. E, insomma, fa bene sentire che ci sono iniziative come queste che aiutano a uscire, o quantomeno ad affrontare i problemi del disagio mentale in un'ottica diversa anche da quella dei semplici servizi di cura, che pure sono sicuramente altrettanto importanti. Andiamo con voi, cari ascoltatori, e abbiamo Roberto che ci chiama da Milano. Buonasera. Buonasera. Io mi riferisco all'intervento dell'animalista. Io sì, sono abbastanza tecnico in queste cose qua. Allora, occorre considerare che gli animali da reddito, siano essi nel circo, siano essi in stalle, sono sempre tenuti nelle migliori condizioni da coloro che li gestiscono, perché un animale che deve produrre un reddito non può essere un costo. Se l'animale si ammala e occorre chiamare il veterinario, sì, tutto il sistema si inceppa, cioè anzi diventa antieconomico. Allora colui il quale gestisce un animale tende sempre a mantenerlo nelle migliori condizioni affinché sì, magari si... Scusi Roberto, quello che lei dice è ineccepibile, però non è detto che diciamo tenere un animale in condizioni fisiche di sopravvivenza equivalga poi a rispettare tutte le peculiarità, le caratteristiche, insomma, anche i diritti, se vogliamo, degli animali. Non lo so qual è la vita degli animali nei circhi, però in passato sappiamo che sì, vivevano, ma vivevano maluccio, ecco, questo è successo. Dopodiché poi molte cose sicuramente sono cambiate da quelle denunce di tanti anni fa. Roberto? Sì, sono qua. Sì. Cioè, il suo discorso va bene, però va un po' sfumato, ecco, non so come dire. Ma secondo me va sfumato quello dell'animalista che ha dimostrato di ignorare. Allora, sì, poi è una battaglia contro l'ignoranza che è molto ampia, e anche la superstizione. Quando vengono a raccontare queste frottole delle scariche elettriche e sì, delle strutture. Sono frottoli in quanto creerebbero all'animale una situazione che è contraria alla sua salute, salute ma benessere anche, perché è vero, come dice lei, che non è solo la salute, ma l'animale viene tenuto e viene amato da colui il quale lo gestisce affinché si crei un rapporto proprio di ubbidienza, ha capito? Se l'animale viene maltrattato, è lui stesso che detesta colui il quale cerca di attestare. Va bene, Roberto, insomma, lei questo concetto lo ha ben chiaro, cioè sicuramente, io ripeto, non è l'unico, perché chiunque schiavizza qualcun altro, mettiamola così, diciamo, ha interesse a che questa persona sopravviva, ma lo sta schiavizzando. Questo vale per le persone, valso in passato, perché adesso la schiavitù non c'è più, può valere in una certa ottica anche per gli animali. Secondo me bisogna guardare un po' alle situazioni concrete, di caso in caso. Michele da Piacenza, buonasera. Buonasera, salve, e grazie per avermi permesso di intervenire alla vostra trasmissione, che è la prima volta che sento, e complimenti, insomma, le faccio i miei complimenti. Grazie, Michele. Io volevo semplicemente esprimere il mio piccolo punto di vista riguardante il discorso delle Olimpiadi, ecco, è una cosa soggettiva che penso io. Io purtroppo quando sento nominare la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi, veramente, cioè, io è una cosa più forte di me, cioè proprio divento una belva, perché, cioè, è incredibile tutti i problemi che ci abbiamo qua in Italia. Sì. Cosa si pensa? L'Italia è l'opportunità, bisogna dare all'Italia l'opportunità. Si sta usando molto spesso la parola opportunità. Sì, secondo lei è una fuga in avanti? Ma è una cosa di cui che per l'Italia non ne ha bisogno. Allora, le spiego brevemente cosa voglio dire. Cioè, ma non è che, scusi, però in che senso l'Italia non ne ha bisogno? Sono cose che noi spesso in passato abbiamo utilizzato male, che sono state utilizzate male, per esempio come nel caso delle Olimpiadi di Atene, che non hanno portato dei frutti. Però in sé per sé gestire un grande evento è una cosa negativa, secondo lei? No, non è una cosa negativa, attenzione. Però già partiamo già male, perché vediamo che purtroppo in Italia dove non c'è guadagno non si fa. Però scusi, cioè, Michele, usciamo un po' fuori da queste frasi generali e stiamo all'annuncio. Io ho riportato la dichiarazione di Malagò, presidente del CONI, che dice: faremo delle Olimpiadi pulite, fatte in casa, aree da recuperare, edifici da risanare, materiali non inquinanti, abbattimento delle barriere architettoniche. Queste cose qua siamo a livello dell'annuncio, cioè poco più di zero, o anche zero. Ma io mi domando, questo annuncio lei lo condivide o no? Io lo condivido a metà, cioè, nel senso, è una cosa che si può prendere in considerazione, però io proporrei una modifica a questa cosa. Cioè, e qual è la modifica che propone? Anziché addirittura, cioè, anziché andare a risanare aree che poi magari qui in là nel tempo non vengono comunque utilizzate, vedi l'esempio però, di Torino, però mi scusi, no, quelle erano aree costruite apposta. Se noi andiamo a risanare, questo concetto che non riesco a far passare, a farvi capire, se noi andiamo a risanare delle aree già degradate, capisce che non stiamo non c'è un intervento che possa essere più negativo di quello che c'è già, ha capito? Ma è comunque una spesa che bisogna vedere fino a che punto possa portare dei benefici. Invece io dico un'altra cosa. Perché facciamole fare alla Spagna le Olimpiadi. Noi non facciamo le questo che lei dice, no? Se ce lo possiamo permettere, cioè, se abbiamo già le aree attrezzate le facciamo, se non ce l'abbiamo, ragazzi, mettiamoci il cuore in pace e le faremo più avanti. Io preferisco spendere dei soldi pubblici per quel ristorante di cui stava parlando prima dell'associazione l'Alba, che si è dovuta fare il mutuo per i fatti suoi, per prendersi il locale. Va bene, questa è una posizione che accetto, perché è una posizione argomentata e anche ragionevole, fondata, perché no, Michele? Sì, ha capito, cioè, se ce lo possiamo permettere, bene, lo facciamo, siamo tutti felici, ne traiamo tutti dei vantaggi. Se non ce lo possiamo permettere, e magari guardiamo altre cose, che, ragazzi, veramente al giorno d'oggi c'è molto più bisogno di fare degli altri tipi di intervento sulle strade, sul territorio. cioè di andare a mettere a posto l'edificio perché devono dormire i ragazzi dormiranno in un albergo. Va bene Michele, la teoria di Michele a Piacenza è molto chiara e dice non investiamo in cose la cui utilità è tutta è da dimostrare come un grande evento, ma investiamo direttamente in cose la cui utilità è evidente, come riparare le buche delle strade o dare finanziamenti alle cooperative come l'Alba che aiuta le persone che hanno un disagio psichico. Questa è una posizione ineccepibile. Io penso che una cosa non escluda l'altra, però forse ci vedo un po' troppo largo, può darsi che sia troppo ottimista. Antonio da Bari, buonasera. Anzi, la borsa? Abbiamo la borsa e poi Antonio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buonasera ad Alessio Maurizi, ben ritrovati, cari ascoltatori dopo la borsa, siamo con i vostri interventi e con Rosario che ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera, innanzitutto buon Capodanno ed è una trasmissione favolosa. Grazie. E poi ecco, dopo di questa cosa qui, sì. Ho detto, volevo dirvi una cosa stupenda. Io ho addestrato un pappagallino, sì. Ed ho avuto un rapporto con questo pappagallino stupendo. Nel senso, aprivo la porta, lui mi saliva, stava sulla spalla. Cioè, voglio dire, se si ha un rapporto di amore consapevole, che ho studiato, etologia, cose del genere, allora... Attenta a quello che dice, Rosario, perché se parliamo di amore consapevole per un pappagallino, qualcuno potrebbe fraintendere, No, perché... No, ma tutte a parte. Guardi, Greg Braden, sì. Un grande studioso, ha dimostrato che i rapporti energetici ci sono, però chiaramente non banalizziamo la cosa. Cioè, però ecco, e poi anche riguardo alle Olimpiadi, sì. Ma ben vengano. Cioè, che stiamo scherzando? Cioè, le Olimpiadi sono importanti, cioè una sfida. Se noi non abbiamo più il gusto delle sfide, che facciamo? Che ci stiamo a fare, Rosario? Anch'io sono abbastanza d'accordo su questo. Un abbraccio a tutti. Grazie, buona serata. Grazie. Poi naturalmente non siamo nati ieri, quindi sappiamo che le sfide è giusto accettarle, affrontarle, ma non coi paraocchi, altrimenti si diventa dei coglioni, diciamo, posso dirlo, sì, perché di errori in passato sui grandi eventi ne sono stati fatti tantissimi e potrei fare un elenco lunghissimo. Quasi ogni volta ci sono ricordi che non vorremmo avere davanti agli occhi, insomma. Però non è un motivo per non accettare, soprattutto una sfida come quella lanciata da Malagò, che secondo me ha impostato le cose nel modo giusto. Poi, ripeto, siamo a livello di annuncio, cioè a livello pari a 0 per ora, 0,01. Staremo a vedere, Rosario, ancora da Padova, buonasera. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione, che vedo che condotta in maniera magistrale, le faccio veramente i complimenti. Non esageriamo, perché sennò poi mi monto la testa, Rosario. Ringrazio per lo spazio che mi avete concesso. Grazie a lei. Volevo fare un intervento relativo appunto al discorso delle Olimpiadi. Cioè, che dire, io come lei ha detto, in Italia abbiamo organizzato vari eventi di caratura mondiale e poi dopo siamo stati sempre lì a leccarci le ferite, a vedere buchi nei bilanci, cattedrali nel deserto. Cioè, non siamo in grado, uno lo deve capire, no? Forse come popolo siamo bravi a fare altro, siamo artisti, però magari a livello di organizzazione lì ci manca qualcosa. Chissà, magari nel 2050 saremo lo stato più organizzato del mondo, saremo come la Corea del Sud, perché lo sa. Ma adesso direi che... cioè, chiaramente il dottor Malagò ha fatto bene a fare la sua, perché non può dire altro, e chiaramente non può dire il presidente del CONI, dice non facciamo le Olimpiadi a Roma in Italia, cioè sarebbe, però la realtà è un'altra, è veramente un'altra, cioè se lo Stato, come dire, l'istituzione fosse una persona, cioè io non gli darei dei soldi, cioè sarei, perché loro amministrano comunque i nostri soldi, queste Olimpiadi non le fanno con il volontariato, non è che sì, però vede, i nostri soldi li amministrano comunque per fare le Olimpiadi o per fare altro, quindi questo è inevitabile, cioè, so come dire, Rosario, quindi non è una cosa che si può cambiare. Dopodiché si può avere o meno fiducia sul fatto che un grande evento serva a qualcosa, se gestito bene o male. Ripeto, chi vivrà vedrà, 800 24 00 24, c'è ancora un po' di spazio per intervenire in diretta anche su questo. Adesso però ci spostiamo tutti a Trento. Voglio vivere così, con il sole in fronte, e felice e caldo, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Su questa meravigliosa, meravigliosissima, si può dire, aria, voglio vivere così, siamo a Trento, perché... Trento vince anche nella classifica della qualità della vita l'Italia Oggi, dopo, fra l'altro, no, è arrivata al secondo posto nella classifica del Sole 24 Ore, l'altra grande classifica che si fa ogni anno su come si vive nelle grandi città. Lo dico subito, noi volevamo organizzare un confronto, un faccia a faccia, diciamo così, tra il primo e l'ultimo, cioè tra Trento e Carbonia Iglesias. Non siamo riusciti, abbiamo detto andiamo a vedere il penultimo, era Agrigento, non siamo riusciti neanche lì. Perché non siamo riusciti? Perché gli ultimi non si sono presentati, cioè gli ultimi sono comuni, città, province commissariate per questioni di malgoverno, e quindi non c'è nessun rappresentante che potesse in qualche modo essere presente. Invece per Trento abbiamo il presidente della provincia autonoma, Ugo Rossi. Buonasera. Buonasera. La prima conclusione che già si può trarre da tutto questo è che la corruzione e il malgoverno è un primo e grande, più grande ostacolo forse alla qualità della vita. E non è una considerazione banale, perché noi pensiamo a volte che la corruzione sia una cosa che, come dire, qualcuno si mette in tasca dei soldi, beato lui, buon per lui, non si deve fare, ma tant'è, e non ci siano ricadute sulla vita di ognuno di noi. Invece no, corruzione vuol dire che poi le città vanno a ramengo, basta guardare quello che succede nei comuni ultimi della classifica. Condivide intanto questo? Penso di sì, che per lei, diciamo, non è facile, non è difficile aderire a questa considerazione. Penso di sì, nel senso che certamente è uno dei fattori di non sviluppo la corruzione. Certo che perché non ci sia corruzione serve anche che ci sia un modo di vivere dove c'è un gran controllo sociale, insomma, da parte soprattutto dei cittadini nei confronti di chi li amministra. Ed è questa, per esempio, la chiave, una delle chiavi di, diciamo, di successo di Trento, cioè il controllo, com'è che ha detto lei, il controllo sociale? Il controllo sociale, cioè la partecipazione dei cittadini a un destino comune, e che è fatto poi che è messo in pratica dagli amministratori, ma deve essere comunque garantita la partecipazione dei cittadini. Noi abbiamo un modello di governo che è quello di un'autonomia speciale, quindi possiamo sostanzialmente decidere noi su quasi tutti gli aspetti della nostra vita, tranne l'ordine pubblico, le tasse e l'amministrazione della giustizia. Per il resto noi con le nostre risorse possiamo decidere noi come organizzarci, e naturalmente i cittadini sono molto interessati a sapere come i loro amministratori utilizzano queste risorse. Poi sa cosa pensano molti ascoltatori? Dicono: certo, facile fare la qualità della vita a Trento con i soldi dello statuto speciale. Lo so, eccetera, però. Guardi che lei ha citato prima due degli ultimi, me ne vogliano, ma se lei fa un'analisi sono due province, Agrigento, Sicilia, in due regioni a statuto speciale. E tra l'altro io voglio ricordare che non si tratta di soldi in più, perché come ho detto prima, tranne quelle tre competenze che sono gestite dallo Stato, tutte le altre sono gestite dalla provincia, ma con costi a carico della provincia stessa. Quindi noi semplicemente utilizziamo sul nostro territorio le risorse che noi stessi produciamo con le tasse. Anche il nostro Pietro Lacorte, regia, il nostro regista, che è siciliano, annuiva mentre diceva così. Quindi non c'è nessuna difesa d'ufficio dell'altra regione a stato speciale, la Sicilia, che appunto con Agrigento si piazza in fondo alla classifica, al penultimo posto. Le voglio chiedere questo, perché queste classifiche della qualità della vita equivalgono, cioè la qualità della vita equivale poi anche alla felicità delle persone, secondo il suo giudizio? Noi siamo normalmente abituati a misurare la competitività di un territorio con il PIL pro capite, per esempio. Sì. Io credo che questo sia un indice che ormai è assolutamente superato, sono appunto altri fattori che devono essere tenuti in considerazione. Poi naturalmente noi siamo molto contenti di essere in testa alla classifica, i cittadini trentini vivono bene sul loro territorio, però sempre di medie si tratta e quindi anche noi abbiamo le nostre preoccupazioni e dobbiamo certamente migliorare anche noi. Io penso che ci siano dei fattori che non sono misurati, che danno una grande qualità della vita e che magari sono presenti in regioni o in province che non figurano in classifica, insomma. Noi siamo contenti di queste classifiche, ma non le prendiamo evidentemente come unico paradigma di misurazione, insomma. Senta, abbiamo parlato del fatto, insomma, voi per quanto riguarda politiche ambientali c'è poco da dire, insomma, basta venire da voi e vedere e capire tutte le cose che fate innovative in questo senso qua. Che ne pensa della proposta del presidente del CONI Malagò, cioè di fare della candidatura per le Olimpiadi di Roma 2024 una candidatura ecosostenibile, ecocompatibile? È credibile o si tratta, come dire, cioè lui si aggrappa all'unica possibilità che ha per provare a fare questa candidatura che altrimenti non avrebbe senso? Ma io penso che ormai anche questi grandi eventi debbano essere concepiti con delle modalità che vanno molto al di là del fare grandi opere in funzione di questi grandi eventi. Bisognerebbe utilizzare le infrastrutture che già ci sono e utilizzarle in una chiave anche promozionale, e direi promozionale dal punto di vista culturale anche per la popolazione che ne può essere interessata. Io penso che sia un'opportunità, certamente sì. Certo, consigli da dare a Malagò in questo senso, cioè dall'alto del vostro ambientalismo trentino? Diciamo che noi per esempio abbiamo organizzato l'anno scorso le Universiadi qui da noi, sì, organizzandole anche in fretta e furia, perché la candidatura, se non sbaglio, in Slovenia non riuscì a garantire l'organizzazione, e le abbiamo organizzate con una grandissima rete di volontariato, utilizzando le infrastrutture che già avevamo, e sono state un successo. Io credo che si debbano organizzare questi eventi davvero cercando delle motivazioni forti nella popolazione. Quindi il volontariato spendendo poco, riutilizzando, certo, strutture esistenti, certo, costruendo zero, questo, esatto, secondo lei si può fare? Esatto. Io penso di sì, e magari può essere anche un'occasione di riscatto culturale per il nostro paese su un tema nel quale, come paese complessivamente inteso, qualche problema ce l'abbiamo. Beh, sì. Senta, da lei si sparano i botti a fine anno? Purtroppo sì. Ma non c'è nessun divieto da parte sua? No, l'hanno fatto in questi giorni in Alto Adige, in Trentino abbiamo scelto di non farlo, anche perché si tramuterebbe in una grida manzoniana. È piuttosto difficile fare i controlli e dare poi le sanzioni. Credo, cioè, che dovremmo prevale, lavorare un po', prevale il realismo, insomma, siccome non si può vietare. Bravo. Credo che dovremmo lavorare un po' di più sotto il profilo culturale, un po', insomma, ecco. Per esempio? Ma per esempio pensando che ci si può tranquillamente divertire anche senza esagerare con questi rumori, insomma. Però è un aspetto ormai presente anche nel nostro modo di festeggiare, quindi realismo. Va bene, grazie Ugo Rossi, presidente della provincia, grazie, di Trento, buona serata. Grazie, auguri, buon anno a tutti, grazie. Che poi diciamolo, questi botti di fine anno sono quella cosa per cui tu fai una serata in cui non fai un tubo, ti annoi tutta la sera, ti rompi le scatole, poi arrivi a mezzanotte e per compensare tutta questa noia spari i botti. No, non è così, secondo me è così, perché se uno fa una serata e si diverte, fa casino davvero, ballando, entusiasmandosi, mangiando e bevendo, facendo casino veramente, non ti viene neanche in mente, secondo me, di andare sul terrazzo che fa freddo a sparare i botti. Questa è come la vedo io. Ivetta da Roma, buonasera. Senta, buonasera, la vedo esattamente come lei. In queste serate, in queste serate dove uno si deve divertire per forza. Ma poi allora non si diverte per niente, di... non si diverte per niente, e spara la sua frustrazione con i botti. Poi va a morire di freddo a sparare, perché sono, primo, anche pericolosi. Secondo, io sono molto sensibile anche al discorso degli animali. Quindi centinaia di animali spaventati che scappano, che muoiono, cioè trovo di una inciviltà, e penso anche che sono, insomma, io ho 64 anni e mi ricordo benissimo di quando si buttavano i water dalle finestre i piatti e uno non poteva circolare perché era pieno di cocci per le strade. Ci siamo affrancati da quello, ma dai botti non riusciamo ad affrancarci. Purtroppo è così. Va Io bene, mi auguro sì. che il sindaco di Roma, dubito che lo farà. Vabbè, ormai è troppo tardi, ormai non... Non si può fare? No, non credo, perché siamo al 29, quindi un'ordinanza andava fatta prima, i comuni che lo dovevano fare lo hanno già fatto, però insomma, magari poi all'ultimo minuto ci sorprenderà Marino. Grazie, buona serata. Allora, intanto una precisazione, perché io ho detto che il comune di Carbonia Iglesias è stato commissariato, ho parlato anche di Agrigento per questioni di corruzione, sì ad Agrigento, Carbonia Iglesias c'è un referendum regionale e quindi c'è un'altra questione, quindi correggo prima che qualcuno si giustamente se la prenda. Ci ha chiamato il presidente dell'Associazione Nazionale Imprese e Spettacoli Pirotecnici, niente proprio di meno che Giuseppe Parente. Buonasera. Sì, buonasera a lei. Prego. Sì, no, io volevo intervenire un attimo su questa su tutte queste ordinanze che ormai si stanno sbandierando. Niente, volevo solo dire che sul discorso botti illegali, rumore illegale, si trova pienamente d'accordo, anche perché noi è un settore dove gli operatori sono tantissimi e sono tutti operatori che rispettano le norme, le regole, e quindi vendiamo un prodotto che tra l'altro è un prodotto che viene che ha quest'anno da un paio d'anni alla marcatura CE, deve rispettare quelli che sono logicamente gli standard europei per quanto concerne sia il rumore sia l'immissione, quindi sono articoli a norma, quindi ben ci stanno i divieti per tutta la roba illegale. Prendiamo una città come, non so, una città nella quale io vivo, Milano, grande città, allora, c'è un divieto di sparare, che cosa? Allora, ma non so, penso che abbiano fatto un divieto. Sono delle, comunque queste sono comunque delle ordinanze illegali. Innanzitutto il sindaco dovrebbe innanzitutto cominciare a io non dico a vietare, ma a cominciare a normare, perché ci sono fuochi che si possono accendere tranquillamente. Io non vedo il motivo per cui un padre non possa accendere una stina al proprio figlio o una fontana. Ecco, mi dica, ma scusi, che, perché è illegale? Cioè, un sindaco non può decidere che per questioni di sicurezza inerenti, sindaco, per esempio agli animali, le risulta che ci siano ogni anno migliaia di animali morti per i botti? A me non risulta, ma guardi, se ci sono anche tantissimi animali. Io guardi, l'ho detto in introduzione, cosa non la sapevo. Carità, no, noi siamo anche molto rispettosi verso gli animali, attenzione. Non è che siamo come si spiega allora queste ordinanze da parte di, non c'è solo Milano, ma c'è Bari, Pistoia, Venezia, io Modena ne ho lette diverse, Torino. Ma queste ordinanze qui sono sulla scia logicamente di input di associazioni che logicamente fanno il proprio lavoro, cioè nel senso, però bisogna stare anche attenti, cioè nel senso che noi come associazione siamo pienamente d'accordo che i petardi, comunque tutto quello che dà fastidio e che vengono accesi vicino a, diciamo, a edifici sensibili, quali possono essere, che ne so, ospedali, il centro storico, ed è giusto che i fuochi siano fatti in spazi aperti, dove logicamente ognuno si può e ha il diritto di divertirsi e non dar fastidio, ma penso che ci sia anche il diritto a divertirsi. Ma c'è, scusi, Giuseppe Parente, c'è un limite di decibel in queste normative europee? Allora, la normativa europea impone già un massimo, cioè a 8 metri non deve superare i 120 decibel. E gli articoli che vengono messi sul mercato rispettano la norma europea. Questa è una norma europea, non ce la siamo inventati noi, attenzione. Se in Europa stabiliscono che 120 decibel quanto può corrispondere, facendo un paragone con un altro rumore, a 8 metri 120 decibel? Ci sono enti che logicamente testano. No, ho capito, ma io mi metto nei panni di chi c'ha tra le mani uno di questi botti e vuol verificare se è fuori legge oppure no, fa una prova. La prova può essere fatta solo con uno strumento. Un martello pneumatico fa più o meno rumore di un botto di questi 120 decibel? C'è c'è tutta un'apparecchiatura che logicamente mettendola a una distanza stabilita verifica e stabilisce che a quella distanza lì non si superano i 120 decibel. Questi sono prodotti che per essere immessi sul mercato vengono già testati, attenzione, sì. Cioè nel senso che non è che ci sono enti che per mettere il marchio CE sopra non lo mettono. No, questo è chiaro, ci sono dei regolamenti che devono essere rispettati. Ma contro queste ordinanze avete fatto qualche ricorso come associazione di categoria? Adesso sì, perché logicamente la cosa sta prendendo comunque piede. A lei non risulta che ci siano animali morti ogni anno migliaia in Italia per via dei botti? Guardi, io sono un amante degli animali e quando vedo sulla strada, vedo lungo la strada animali abbandonati, animali stesi dalle macchine e mi piange il cuore, quindi non puntiamo solo il dito contro i fuochi d'artificio. Va bene. Quando vedo dei canili lager che fa vedere per televisione, dove ci sono i comuni che dovrebbero tenerli come si deve e non li tengono come si deve, lì nessuno alza e nessuno punta il dito contro una situazione del genere. Ho avuto di moda puntare il dito solo contro questo i fuochi. Questo è possibile, questo è possibile, anzi. Se si vuole del bene agli animali, bisogna averlo per tutto. Però io devo dire che ho avuto telefonate di ascoltatori che dicevano che già i loro animali in questi giorni, un ascoltatore a Messina, prima un altro, non ricordo da dove, che sono impauriti, preoccupati, spaventati, che se non lo tiene al guinzaglio il cane magari scappa e può finire sotto una macchina. Questo è quello che io glielo dico, perché ce l'hanno detto poco fa, insomma, quindi glielo riferisco. Lei ha perfettamente ragione, ma le posso anche dire una cosa, che chi ha degli animali, la questione dei fuochi d'artificio è soltanto quella mezz'oretta, chi ha un animale logicamente lo può tenere tranquillamente in casa e non succede nulla, cioè io ho tre cani che vivono in casa con me e mi creda, quell'attimo lì, quel quarto d'ora, quei 20 minuti se ne stanno in un angolo, dopodiché ritornano allora normali come prima. Cioè, è solo una questione di comportamento, mi creda. È diventata una moda puntare il dito solo contro i fuochi. Gli animali bisogna volerli bene tutto l'anno, non solo puntare il dito uscire il discorso animali solo sui botti di fine anno. Gli animali dobbiamo tenere bene. Va bene, grazie al presidente dell'Associazione Nazionale Imprese degli Spettacoli Pirotecnici, Raffaele dalla provincia di Padova. Sì, salve. Buonasera. Pronto? Prego, tocca a lei. Ok, allora volevo dire una cosa. Io ho un figlio che ha 8 anni e gioca a calcio, fa nuoto, fa sport. Per la questione delle Olimpiadi, io volevo fare una proposta di fare un preventivo fatto bene di quanto si viene a spendere per fare queste Olimpiadi. Sottoporla a un sondaggio, a un referendum, vedere se davvero gli italiani sono così ansiosi di spendere questi soldi per fare questa cosa. E poi volevo anche sapere se alla fine la società di calcio dove gioca mio figlio, dove ci si passa di generazione in generazione le tute, le magliette per risparmiare, quanto può, che vantaggio può avere da questo fatto che venga la promozione dello sport eccetera, ma quale sarà il vantaggio vero di questa manifestazione? Non lo so, lo ignoro completamente, Raffaele, ma credo che non sarebbe sbagliato, ecco, il mio modesto parere, non so se sono un demagogo. No, questa è un'idea, una proposta, cioè, certo che si potrebbe fare un referendum per qualunque elemento di spesa pubblica, però visto che un'Olimpiade implica una spesa, una grossa spesa, sicuramente poi un evento che non ce l'ha ordinato il dottore potrebbe essere anche un'idea non stupida la sua, di sottoporlo non so a che tipo poi di referendum tra i cittadini. Pietro dalla provincia di Vicenza, buonasera. Buonasera da Schio, Pietro, buonasera. Prego. Per me è un'occasione da valutare. Dobbiamo uscire, a mio parere, da questo nichilismo che i fatti di questi tempi della pubblica amministrazione purtroppo ci mette davanti, e dobbiamo rilanciare. E può essere anche lo sport il momento in cui si rilancia, che l'orgoglio, che l'organizzazione che sappiamo essere anche nel fare le cose in Italia, non solo nella fashion, nel Made in Italy, ma anche nel recuperare quello che abbiamo fatto e fatto male sono state ricordate le vicende del governo Berlusconi con la questione relativa alla Sardegna. Ecco, io credo che il primo ministro abbia fatto bene. Penso che il presidente Malagò non sia obbligato evidentemente a seguire, avrà una sua opinione, ma che questo sia il suo precipuo lavoro, che potrebbero essere i sindaci delle città prescelte a dover presentare dei progetti legati assolutamente non a nuove strutture ma al recupero di quelle che ci sono, e credo che la Maddalena potrebbe essere a pieno titolo inserite in queste, ma soprattutto anche vincolate poi ad un progetto post-Olimpiade, ovvero a farci capire come questo pubblico denaro, che dovrà essere speso con una grande oculatezza, vedrà il prosieguo. Va bene, io ripeto il concetto, cioè se noi partiamo da strutture già degradate, da recuperare, sicuramente ci togliamo per esempio di mezzo un costo che è quello della manutenzione di queste ex fabbriche, ex spazi appunto di edilizia abbandonati, distrutti, decadenti, che comunque poi possono avere anche una ricaduta di costi sulla collettività. Per cui diciamo già recuperarle con un progetto, ha ragione lei a dire un progetto anche post Olimpiadi, questo sarebbe un grosso valore, un grossissimo valore aggiunto per una qualunque comunità. Dopodiché, viste le esperienze negative del passato, prevale un certo scetticismo tra gli ascoltatori. Abbiamo ancora tempo per Francesco che chiama da Trapani. Buonasera. Sì, buonasera, salve, Francesco da Trapani. Prego. Ascolti, io chiamavo in merito al budget assegnato per le Olimpiadi. Sì. Non riesco a comprendere intanto chi paga cosa, perché se chi paga cosa sono gli sponsor e quindi le strutture vengono pagate dagli sponsor, ben vengano, anzi possono fare quello che vogliono. Il problema... No, io non credo che se ci sono degli sponsor possano fare quello che vogliono, perché si tratta di delle nostre città, quindi non è che se c'è uno sponsor possono fare quello che gli pare. No, io non sono di questa opinione. Mi scusi un attimo, quello che vogliono significa che una volta che noi gli diamo i siti dove costruire o dove ristrutturare o dove fare, i soldi sono a disposizione, noi gli diamo i progetti e loro ci mettono i soldi di tasca. E fino a qui il contribuente non caccia fuori un denaro. Ma se i soldi le deve uscire il contribuente a fronte di sponsor, a fronte di diritti televisivi, mi perdoni, ma io penso che ci siano necessità più impellenti in Italia, tra cui non fare aspettare 12 mesi per un TAC a un paziente, tra cui garantire il diritto minimo assistenziale alle persone o un reddito minimo per continuare a vivere. Per quanto riguarda, mi perdoni e termino, per quanto riguarda invece gli animali... Però con questo principio dovremmo interrompere anche il campionato di calcio, perché siccome la sicurezza la paga lo Stato, e allora non è una priorità, chiudiamo anche il campionato di calcio, cioè chiudiamo tutto quello che c'è, l'indotto, le televisioni, il lavoro. Mi perdoni, noi prendiamo un esempio, la Formula 1. Chi paga per la Formula 1? Nel campionato della NFL in America, chi paga? Pagano i privati. Devo chiudere Francesco, grazie. Comunque buona serata, ci sentiamo domani sera, quindi avanti con le telefonate naturalmente. Grazie a tutti, a Pietro Lacorte, Laura Faggin in redazione, ad Alessio Maurizi un augurio di buona serata, ci risentiamo domani alle 18.30. Ciao!